E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Viva la Rai, se sarai buono il tuo Mazinga vedrai. Oppure no, dipende dal funzionario Rai. Viva la Rai, che cosa giusta è. Luca Telese in collegamento da Roma. Ciao Luca. Ale. Allora, perché iniziamo con Viva la Rai? Avrai letto anche tu venerdì che cosa è successo, uno mattina, cosa è accaduto. Spot pazzesco per il governo, conduceva Adriana Panitteri insieme a chi? A un personaggio che è un personaggio. No, Sestino Giacomoni, Sestino Giacomoni. Uno dei collaboratori del premier, devo dire che sarà stata una delle prime volte che Giacomoni va in televisione, Tutti sono convinti che sia un personaggio dei fumetti, invece esiste davvero. Esiste davvero, e sentirete fra poco la voce. Cosa presentavano? Presentavano sostanzialmente il libro di 2 anni di governo. Devo dire la verità, anch'io che di solito non sono lì a scandagliare le trasmissioni televisive, non sono lì a fare la vivisezione di ogni programma da Rai, mi è sembrato un po' troppo, anche a me, figurati Luca, anche a me è sembrato un po' troppo. Pensa come siamo ridotti. E allora partiamo, ti faccio sentire. Buongiorno, benvenuti alla nostra seconda pagina intitolata Il Punto. E parliamo di politica, di quello che sta accadendo anche sulle prime pagine dei giornali. Lo facciamo con l'onorevole Sestino Giacomoni. Buongiorno, buongiorno PDL. Allora intanto diamo un piccolo sguardo alla sua biografia, perché in effetti è molto ricca. Consigliere del premier Berlusconi, etichettato dalla stampa in diversi modi, soprattutto come assistente, suggeritore, addirittura uomo ombra, insomma, no? Mi sembra, come dire, un po' troppo. Luca, molto ricca la biografia, molto ricca. È bellissimo. Pensa che quando lo ha scritto il nostro Edoardo Di Blasi questo pezzo, pensavo che avesse esagerato, invece è testuale. Uomo ombra, no, forse no uomo ombra, ma guarda che quando si va avanti è ancora peggio, andiamo. Lei è nato il 27 marzo, giorno della fusione del PDL tra forzisti AN nel 2009. Allora, che cosa sta succedendo? Questo ci dà lo spunto per capire cosa sta accadendo nella maggioranza di governo. Ma guardi, al di là del politichese, di quello che leggiamo sui giornali, io credo che la cosa più grave che è accaduta in questi giorni è che il Presidente della Camera ha di fatto abbandonato il suo ruolo super partes. Infatti ha costituito dei gruppi parlamentari autonomi sia alla Camera che al Senato. Aiutami Luca, aiutami. È nato lo stesso giorno di cosa? Già l'ho dimenticato. Della fusione fra il PDL e AN. Beh, è straordinaria questa cosa qui. A un certo punto discutono, eccetera, e Sestino Giacomoni, uno dei collaboratori più stretti del premier, nonché parlamentare, dice, ecco, il libro dei 2 anni di governo. E devo dire che la stabilità in politica è tutto, perché proprio la stabilità è una maggioranza forte e coesa che ha consentito al presidente Berlusconi, a questo governo, di realizzare molte delle cose che lei troverà in un volume, certo, che vi ho appena portato parlarne, e che abbiamo dato alle stampe da poco. Quindi questa è la situazione. E poi a un certo punto la conduttrice Adriana Panitteri dice, beh, sfogliamo questo libro insieme, sfogliamolo insieme, onorevole Giacomoni. Andiamo a vedere questo volume, 2 anni di governo. Questo è stato realizzato dalla Presidenza del Consiglio. Lei ovviamente ha collaborato alla realizzazione di questo volume. Quali sono i punti importanti? Mi sembra sono 4 a grandi linee. Guardi, la cosa divertente lo è che sfogliando questo volume, le dico, la prima cosa che a me ha colpito è... Luca, sfogliamolo insieme questo volume, sfogliamolo anche io. Stanno e te. Stanno andando a ruba, mi raccontano di assalti nelle librerie. Dov'è il libro a cui ho partecipato alla stesura Sestino Giacomoni? E poi lo consiglia, a un certo punto c'è l'esaltazione dell'attività di governo, eccetera, eccetera, e lo consiglia, pensa un po', come libro per l'estate, non ci posso credere, questa non l'avevi sentita, sì, no. Ti assicuro che è così. Ti assicuro che è così. Consiglio in questo mese di agosto come lettura i due anni di governo. Anche questo volume, due anni di governo. Perché ritengo che troveranno cose molto utili per accanto loro. Accanto ai giornali di gossip. Accanto ai giornali del gossip. Allora, la ringrazio, onorevole Sestino Giacomoni, PDL, e la linea va a Pierluigi. Crollo anch'io, Luca, crollo anch'io. Di fronte a me è un complotto contro Berlusconi. Dici? Stanno cercando di metterlo in imbarazzo. Quest'uomo è una spia dei sovietici. Dici, non si può avallare una cosa del genere, no? Non è possibile che sia vero. Senti che è grottesco. Sestino Giacomoni che consiglia come libro per l'estate i due anni, il riassunto di due anni di governo Berlusconi. Io voglio chiedere al sindaco di Verona, Flavio Tosi, che saluto. Buonasera. E buonasera a voi. Allora Tosi, ma non è, lei non ha letto questo libro e non lo leggerà per l'estate, non seguirà il consiglio del collaboratore di Berlusconi, no? No, sinceramente no, perché di politica le bastico tutti i giorni, e poi di solito i libri, quando sono un po' troppo di profilo istituzionale, rischiano di essere anche piuttosto pallosi. Eh beh, anch'io lo dico, insomma. Telese, dove sei? Che uomo illuminato. Quasi gli perdono quella cosa che ha fatto, che è imperdonabile. Quale? Quella su Morgan, è imperdonabile. Come mai? Qui siamo due contro uno, però, perché in questo caso io sono d'accordo con Telese. Caro sindaco, qui nessuno ha pregiudizi contro di lei, però perché diventa il capro espiatorio Morgan e lei non vuole farlo esibire al Teatro Romano di Verona? Ce lo spieghi e ce lo, un po', insomma, cerchi di convincerci. Io e Telese siamo contrari a questa cosa. Perché oggi di Morgan, più che riconoscere la musica di Morgan, che dubito che in molti la conoscano, oggi di Morgan si conosce quell'esternazione decisamente brutta e fuori luogo, nella quale disse a una nota rivista: quando sono depresso uso la cocaina. Ecco, siccome questo è oggi il suo biglietto da visita, e allora farlo esibire sarebbe stato rivangare quel messaggio assolutamente negativo. Però mi scusi, a parte il fatto che quell'intervista a Max è contestata, c'è tutta una contestazione da parte dell'avvocato che cerca di ottenere l'audio perché Morgan contesta l'audio, ma ammettiamo pure che Morgan abbia detto quelle cose, ed effettivamente in parte le ha dette, perché altrimenti non ci sarebbe stata una discussione successiva anche a porta eccetera. Però mi scusi, se, seguendo questo criterio, sindaco, se lei dice Morgan non si può esibire a Verona perché ha detto quelle cose lì ed è un cattivo esempio, questo dice lei? Più che altro, più che un cattivo esempio, ha lanciato un messaggio assolutamente negativo. È inammissibile che, siccome ha un pubblico di giovani, che chi ha un ruolo pubblico in qualche modo, quindi anche chi fa spettacolo, è anche di esempio. E siccome i giovani appunto tendono anche, come è normale che sia, ad imitare dei modelli, lui in questo momento è un modello assolutamente negativo, quindi non va imitato, quindi meglio metterlo in naftalina, in maniera che ci si dimentichi di quella bruttissima uscita che ha fatto sulla cocaina. Ecco, ma in questo modo non è un po' condannare una persona ad una frase? In fondo Morgan ha detto quello che molti non dicono. Giustamente, secondo me, Michele Serra l'altro giorno su Repubblica faceva notare, beh, insomma, anche la curva, per esempio, dei tifosi del Verona esprime ogni tanto, ma non solo dei tifosi del Verona, naturalmente, esprime valori negativi. Se uno si dovesse mettere a condannare, a non far esibire quelli che esprimono valori che sono considerati negativi, insomma, la lista sarebbe molto lunga, sindaco, no? Ma guardi, io esternazioni come quella di Morgan recentemente me ne vengono in mente gran poche, perché veramente tant'è che appunto ci fu un dibattito molto vivace anche in quel momento, e tant'è che è stato escluso da Sanremo, no? Mica, che non è una cosa da poco, e perché appunto è stato un fatto di particolare gravità. E ripeto, non ho memoria recente di qualcuno che abbia detto una stupidaggine del genere, ma in modo così grossolano, perché non è, ha detto ero disperato, ha detto siccome sono depresso uso la cocaina, come se fosse un medicinale contro la depressione, cioè una mostruosità. Lei, quando lei dice mettere in naftalina, che significa? Ma che adesso, secondo me, siccome adesso ci si ricorda di lui solo per quello, se passerà un po' di tempo, nel frattempo lui magari avrà modo di, anziché di cercare di rinnegare un'intervista che ha fatto, perché non mi risulta né che abbia querelato né il giornale né il giornalista per diffamazione, che sarebbe la prima cosa che avrebbe dovuto fare pretendendo una smentita. Anzi, so che ha caricato la dose, perché a qualche quotidiano ha pure dichiarato che lui, a differenza di Belen Rodriguez, lui invece ha innestato un dibattito politico alto, roba dell'altro mondo, quindi ha quasi rivendicato quella frase. Secondo me lui, se invece facesse un'autocritica seria dove dicesse che oltre ad aver sbagliato ad assumere la cocaina, che assume cocaina fa male, insomma facesse capire che ha capito di aver sbagliato. Ecco, quando scenderà dal piedistallo e farà un mea culpa adeguato rispetto all'errore clamoroso che ha fatto, allora si può riparlarne. Luca? Io sono un po' stupito, perché ho simpatia, ammirazione e stima per il sindaco Tosi, solo che ogni tanto vedo che ha due facce. Allora, mi stupisce questo: se il rigore che lui applica a Morgan dovesse essere applicato ai leghisti, allora tutti i sindaci, lui compreso, dovrebbero negare il palco alle manifestazioni della Lega ogni volta che c'è un eccesso, quando Bossi dice che bisogna infilare il tricolore nel cesso, allora non gli si dà il palco per la manifestazione, quando dicono che la vita dei magistrati vale meno di una pallottola. Cioè, io non credo che il sindaco debba essere un'autorità morale, una sorta di muezzin che decide chi è buono e chi è cattivo. Cioè, il sindaco fa il sindaco, non è che si mette a discriminare un artista a seconda di quello che dice. Allora, siccome stimo Tosi, penso che lui questa cosa gli sia un po' sfuggita, ma non la pensi davvero? Lo sentiremo tra poco dopo il traffico. Poi c'è una questione, caro sindaco. Se dovesse essere, come pare, invitato a fare una prestazione all'Arena di Verona, che succede al Teatro Romano? No, perché lei, diciamo, ha il potere di non concedere la sala in caso di presenza di una persona a lei sgradita o all'amministrazione sgradita che non ritiene compatibile con l'immagine della città, e all'Arena di Verona sì? 800 24 00 24. Aggiungo un'altra domanda, sindaco Tosi, ed è questa: se tra qualche giorno, tra qualche mese, non so quando, qualcuno decidesse di far presentare, che ne so, il Festival Bar o un'altra manifestazione a Belen Rodriguez, che ha ammesso in circostanze che sappiamo, eccetera eccetera, qui l'abbiamo difesa noi da attacchi assurdi che sono stati fatti su Sanremo, su un'eventuale conduzione di Sanremo, insomma, se si decidesse di far condurre a Belen Rodriguez una manifestazione a Verona, lei che cosa farebbe? Ma Belen Rodriguez, il contesto è completamente diverso. Lei è stata interrogata da un magistrato e quindi ha doverosamente ammesso quello che aveva fatto, quindi del consumo della cocaina, ma ripeto, il contesto è diverso, non è una che è andata in giro a dire a vantarsi in qualche maniera di utilizzare stupefacenti e quindi in qualche modo dando un modello negativo. L'ha ammesso perché è interrogata da un magistrato su un fatto personale privato, quindi è un contesto completamente diverso da quello di Morgan. E sulla questione dell'Arena di Verona? E sulla questione della Arena di Verona, quindi se Belen Rodriguez... Se Morgan dovesse ricevere un invito, come pare, per fare un'esibizione all'Arena di Verona proprio in quei giorni in cui doveva fare il concerto al Teatro Romano, che succede? All'Arena sì, al Teatro Romano no? Ma diciamo che se ci fosse un concerto di Morgan in Arena, non gli avrebbe concesso, perché i meccanismi sono analoghi a quelli del Teatro Romano. E mi dicono che per l'Arena ci siano diverse autorizzazioni, però è una questione diversa rispetto al Comune, o no? No, perché comunque c'è sempre una commissione comunale a cui vengono sottoposte le richieste. L'unica cosa è se qualcuno magari lo infila all'interno di un palinsesto dove ci sono tanti altri artisti e quindi lui non compare, allora è diverso, perché se noi magari autorizziamo il concerto di un artista. Così pare. Questo potrebbe essere, nel senso che questo mi hanno detto nel senso che se sfugge al nostro controllo, capire, magari la può fare franca, solo in questo caso, perché se noi sapessimo che ci fosse lui gli impediremmo di esibirsi, ovviamente. Luca, che stavi dicendo? No, vorrei capire, ma perché veramente mi sembra strano, e le sostengo questa tesi, quali sono i confini del cattivo esempio? Cioè, se un artista tradisce la moglie e si viene a sapere, lei gli sospende il permesso assolutamente. A Verona, se l'artista tradisce la moglie, sono cavolacci suoi e non fa danno a nessuno. Siccome l'usare cocaina fa male ed è pericoloso, e fa male a tutti, e quello è l'esempio negativo. Tu dai un esempio negativo quando fai pubblicità di un comportamento che può nuocere agli altri. Invece, poi amate la famiglia, uno che tradisce la moglie dà un esempio negativo. Il sindaco dice ci sono esempi negativi ed esempi negativi. Quello della droga è un esempio negativo. Ma diciamo. La droga fa male. La droga fa però male. Anche io le devo dire una cosa, sindaco. Il Morgan, in realtà, dopo quell'intervista, che ripeto contesta, ma questo è un altro discorso, ha passato un periodo anche di grossa espiazione da questo punto di vista, cioè fuori da Sanremo, come lei sa, poi anche X Factor, problemi che sappiamo di altro tipo, insomma sta passando un periodo difficile, da cui cerca di riprendersi anche tornando a fare il mestiere che ha sempre fatto. Ora, questo ostracismo che riguarda la città di Verona, ma che potrebbe estendersi ad altre città, non le sembra un tantino eccessivo? È questo che le domando. Basterebbe una bella dichiarazione di Morgan nella quale dichiarasse non in maniera evidentemente spintanea, ma in maniera spontanea, di aver fatto un clamoroso errore sia nel consumare sostanze stupefacenti, sia soprattutto nel dire quella stupidaggine che appunto la usava la coca come antidepressivo, basterebbe questo. Luca, però in realtà Morgan è passato attraverso questo tipo di ha fatto una serie di abluzioni e penitenze, fra cui intervenire a Radio Libertà con il ministro Meloni e dicendo proprio quello che ha detto il sindaco Tosi. Quindi forse dovrebbe acquisire una rassegna stampa il sindaco e verificare che quello che lui chiede già c'è. Ma guardi, io ho visto la reazione che ha avuto Morgan al divieto di esibirsi al Teatro Romano ed è stata di tutt'altro tenore. No, la reazione era contro di lei, dicendo che lei non può dare esempi perché è stato condannato in via definitiva, eccetera, eccetera. Appunto, si è messa a fare discorsi, ma a parte questo, mi interessa e mi tocca gran poco. Ma di dire che lui ha diritto a lavorare, neanche fosse un disoccupato metalmeccanico, insomma, se si mette a parlare un po' più seriamente, allora forse magari viene anche ascoltato. Ma lei ci parlerebbe con Morgan? Assolutamente sì, non ho nessuna prelusione. Se lui intervenisse adesso alla radio, ci parlerebbe lei? Certo. Chiamiamo, proviamo? No, non vuole, non vuole, non risponde, che fa? Non risponde. Vabbè, ci proviamo. Non avrei magari problemi, assolutamente. No, no, ma questo, Luca, il sindaco si conferma una persona molto disponibile innanzitutto e che certamente non rinnega le proprie idee. Io però devo dire la verità, vedo in questa cosa un piccolo accanimento, sindaco, perché in realtà poi viene invitato in diverse città, non è che Verona diventa improvvisamente un luogo off limits per chi fa dichiarazioni di questo tipo, perché il confine tra chi fa dichiarazioni saltando il ruolo, che poi non è stato proprio così, saltando il ruolo della droga come antidepressivo, e chi invece ammette tranquillamente di sniffare o ammette davanti ai giudici di sniffare, insomma, lei dice sono due situazioni diverse, ma insomma poi non sono così diverse. Quando si parla di cattivi esempi si sa dove si inizia, non si sa dove finisce. Elena Rodriguez non ha mai dato pubblicità di quel fatto, è stata interrogata, poi sono usciti i verbali, perché lei non è mai andata da nessuna parte a vantarsi di questo. Cioè c'è una differenza abissale fra il comportamento di Elena Rodriguez e quello di Morgan. Luca. No, ma anch'io concordo con la differenza. Rodriguez sì, non questo, ha fatto questo sì. Di male, questo l'ho anche scritto, quindi trovo che però veramente sia un po', cioè non mi ha convinto, il sindaco non ha il dovere di essere un'autorità morale. Mi viene in mente solo che so la polizia etica in Iran, c'è gente che dice io in virtù del potere che mi dà la legge decido chi è buono e chi è cattivo. Secondo me il sindaco non ha questo potere, ma secondo me lo pensa anche Tosi e poi forse mi sbaglio. Cioè sindaco, a un certo punto se un primo cittadino può decidere chi fa un concerto o no in una città sulla base del fatto che può concedere, diciamo, uno spazio pubblico, beh, insomma, la cosa diventa complicata, capisce? Cioè, guardi, le dico, io ho concesso sale, spazi a chiunque la pensi diversamente da me, a chi dice le cose più diverse. Non concedo spazi a chi ha fatto pubblicità di lui stupefacenti, che è una fattispecie ben particolare. È come se uno desse uno spazio, per carità, ovviamente non è lo stesso caso, a uno che invita ad ammazzare la gente. Ecco, cioè, c'è un limite oltre il quale non si può andare. Poi se uno invece, ripeto, ha idee le più diverse, le più strampalate, ma ammissibili, gli abbiamo dato spazi a tutti, e difendendo il fatto anche di dare spazi a tutti, anche magari qualche volta prendendoci critiche quando le abbiamo concesse. Dunque, secondo lei, da quello che le risulta, Morgan non ha detto di essersi sbagliato e di aver sbagliato a fare quella cosa, no? L'ha sempre... No, guardi, io ho visto la reazione che ha avuto anche di fronte al nostro divieto, è stata di tutt'altro tono, come sempre. Cioè l'ha attaccata dicendo, vogliamo ricordare agli ascoltatori, dicendo che lei ha una condanna definitiva per istigazione all'odio razziale, non so nemmeno che cosa sia. Sì, ma e dunque lei non può dare esempio, non può dare... Poi ha parlato appunto del suo diritto di lavorare, che anche lui ha diritto a lavorare, insomma... Ha detto tutto il contrario di quello che bastava, solo quello che fosse una sincera espressione di pentimento per aver detto una cosa inammissibile. Appunto. Però il cattivo esempio, Luca, insistiamo ancora su questa cosa. E magari se anche durante gli spettacoli o le sue esibizioni ribadisse di aver sbagliato quella volta, male non farebbe. Cioè lei raddrizzerebbe il messaggio, anziché aver dato un messaggio negativo, lo trasformerebbe in un messaggio positivo. Telese, è tutto inscalfibile il sindaco? Abbiamo discusso, abbiamo dibattuto, io penso che alla fine decideranno gli elettori. Se un sindaco vuole entrare in spazi che secondo me non gli riguardano, poi decideranno gli elettori. Sì, no, questo è evidente. Io sull'esempio negativo, perché quando uno parla di esempio negativo, sindaco, ripeto, non è che ci può essere Morgan che fa un'intervista, peraltro contestata, e poi il resto è tutto passabile. Se uno comincia a fare l'elenco degli esempi negativi, potrebbe essere lunghissimo questo esempio. Cioè, dov'è il confine tra un esempio negativo da bollare e un esempio negativo su cui si può passare sopra? Me lo può fare un esempio? No, ma guarda che non c'è, altrimenti qua rischiamo di fare una discussione filosofica e retorica. Si fanno campagne, fior di campagne, con investimenti anche pesantissimi per aiutare i nostri ragazzi, per tenerli fuori dall'utilizzo di sostanze stupefacenti o dall'abusare di sostanze alcoliche. Si fanno controlli, si fa di tutto per fare in modo che certi comportamenti non vengano assunti e poi si fa passare un messaggio del genere. Cioè, è contraddittorio con tutto quello che si fa. Bene, grazie, grazie, buona serata. Grazie. Dove si trova? È in vacanza, sindaco? No, per... Sono in Sardegna in vacanza una settimana. Allora, la lasciamo alle spiagge sarde. Grazie di cuore. Buona serata. Senta, buona senta, ma senta una cosa, sindaco, no? Prego, una curiosità, prego. Ma anche lei è contrario agli oriundi in nazionale? Non mi dica di sì, perché... No, non sono contrario, assolutamente. Non è contrario. Vedi, Luca? Assolutamente, sono consentiti, perché meno gli male. Oriundi sono nostri fratelli, sono figli di nostri fratelli, o nipoti, comunque legati a noi. La regione Veneto nel 2003, se non era fatta con una legge per favorire appunto il rientro in patria degli oriundi, abbiamo fior di oriundi, insomma, mi pare Sivori, per dire, fosse un oriundo, se non ricordo sì, male, tanto sì, come no. Uno, certo. Beh, camoranesi adesso nei tempi recenti. Devo dire anche che ho apprezzato moltissimo le parole di Amauri, che si è dimostrato un vero italiano in quello che ha dichiarato. Quindi io, per me, gli oriundi non rappresentano un problema, anzi rappresentano una risorsa. Dunque il suo collega della Lega che ha fatto quell'uscita ha detto una sciocchezza? Beh, nel mondo del calcio uno la pensa di un modo, uno la pensa di un altro, lui la pensa così, io la penso diversamente. Oh, che bello, ha detto un grande italiano, non un grande padano. Un grande italiano, vedi che ha due facce, un grande, ma guarda che va già recuperato. No, no, che patriota. Due facce, non c'entra niente, le due facce vai non c'entrano niente. Sardegna. No, no, questa mi piace. No, ma un grande italiano, Mauri un grande italiano, certo. Qualcun altro avrebbe risposto diversamente, però ognuno ha la sua sensibilità. Sta e... già facendosi perdonare Morgan. Buona serata, grazie. Vi devo dare una notizia uscita da qualche minuto attraverso le agenzie di stampa. Si sarebbero aggravate, secondo quanto si è appreso, le condizioni di salute del senatore a vita Francesco Cossiga, ricoverato questa mattina al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per problemi respiratori. Naturalmente seguiamo con grande attenzione, anche perché è stato spesso ospite del nostro programma, ma non solo per questo, naturalmente, perché è una personalità importante della nostra storia politica. Seguiremo nelle prossime ore con grande attenzione l'evolversi della situazione che riguarda il senatore a vita Francesco Cossiga. I titoli del TG2. Lettera di Berlusconi ai Club della Libertà, mobilitazione permanente contro disfattismi e personalismi, comunicare i risultati del governo, noi facciamo i fatti, gli altri le chiacchiere. Ancora incendi in Russia, Mosca avvolta dal fumo ed è emergenza sanitaria, raddoppiata la mortalità, si teme per un impianto nucleare negli Urali, i meteorologi disastro epocale. Ladri in azione a San Giovanni Rotondo, dove riposano le spoglie di Padre Pio. I malviventi tentano di rompere il vetro antisfondamento che protegge le reliquie, ma non ce la fanno. Mia Farro attacca la Campbell. La top model ha ricevuto un enorme diamante dall'ex presidente liberiano. Dice: non pietruzze sporche come Naomi, ha riferito al processo a Taylor per crimini contro l'umanità. Bene, anche studio aperto. Aggredita mentre porta a passeggio il cane, vittima di questo nuovo episodio di abusi sulle donne, il terzo in pochi giorni, è una ragazza sordomuta di Novara. Si è difesa disperatamente ed è riuscita a scappare. Lo aveva già fatto il 25enne che a Napoli ha ucciso tre ragazzi guidando drogato e ubriaco. Poche settimane fa, in quelle condizioni, aveva provocato un altro incidente, ma nessuno l'ha fermato. Serve una mobilitazione permanente contro gli sfattismi. Il premier Berlusconi, in un messaggio ai Club della Libertà, rivendica il lavoro del governo e critica i personalismi di chi dice antepone i propri interessi al bene del paese. L'Europa centrale sott'acqua. In Russia le fiamme minacciano una centrale atomica. Catastrofe Pakistan, peggio dello tsunami. A studio aperto il drammatico racconto di un turista italiano bloccato dalle alluvioni in India. Almeno 5 i morti stranieri. Quando i baci miei tu rimpiangerai, puoi tornar sherry a Monte Carlo. questo nostro amore puoi salvare ancora. O scieri con me a Monte Carlo. E naturalmente domina la vicenda della casa di Monte Carlo con le spiegazioni / non spiegazioni, questo è un giudizio personale, di Gianfranco Fini sulla casa di Monte Carlo. Ci sono alcune cose stupefacenti presenti nel comunicato di Fini, che è presente oggi su tutti i quotidiani, soprattutto il suo disappunto per aver appreso solo pochi mesi fa che l'appartamento era in locazione a Giancarlo Tulliani. Ma secondo i Finiani, e sentiremo fra poco della vedova, tutto è a posto. Ma io credo che nella lunga e dettagliata nota di oggi Fini abbia dato tutte le spiegazioni su una questione che non riguarda la pubblica amministrazione, ma un lascito privato d'Alleanza Nazionale. Un romantico passato, se ritorni non andrà perduto, non tardare più, manchi solo tu. Per quelli di voi che hanno letto le spiegazioni di Fini, l'appello naturalmente è questo: diteci cosa ne pensate. Spiegazioni sufficienti, non sufficienti, scarse, addirittura contraddittorie, forse un boomerang secondo alcuni. 800 24 00 24, Domenico ci chiama da Foggia, buonasera. Buonasera, niente, io volevo intervenire sulla questione di Morgan, volevo solo dire questo. In sostanza, se Morgan ha chiesto, ha avuto un ripensamento su quello che ha detto, ha chiesto scusa in sostanza, perché accanirsi e non farlo parlare, non farlo esibire a Verona? È una sanzione in più che applica il sindaco, voglio dire, non trovo ragione in questo comportamento da parte dell'amministrazione comunale, del sindaco di Verona. Ecco. Poi sul fatto che lui abbia poi si sia risentito e abbia detto al sindaco tu non devi parlare perché sei stato condannato, può avere anche le sue ragioni Morgan, perché il sindaco ha chiesto scusa all'umanità perché quello è un crimine contro l'umanità che ha commesso per quello che ha fatto. Sì, Domenico, secondo me la difesa di Morgan parlando di Tosi come cattivo esempio è una difesa sbagliata, glielo dico subito molto sinceramente. Detto questo, ha ragione, è sembrata una punizione in più rispetto comunque a una situazione complicata che Morgan sta passando, non c'è dubbio. Io non è che sono un esperto di questa materia, però ritengo che il sindaco, voglio dire, si sia attribuito un compito che non è il suo, quello di punire un artista per delle dichiarazioni che ha fatto. Sono d'accordo con lei, Domenico. Luca Telesi è tornato con noi. Innanzitutto devo dire, Luca, che seguiamo tutti con molta attenzione le vicende di Francesco Cossiga. Questo sia chiaro, stiamo seguendo la vicenda di Cossiga. Speriamo che ci senta e mandiamogli un augurio. Gli mandiamo un augurio, spesso è stato ospite sia nelle tue trasmissioni, sia qui alla Zanzara. Insomma, speriamo che questi problemi respiratori che sono causati da... Sai che io gli devo la mia assunzione al Corriere della Sera? Addirittura? Sì, perché nel 1999, quando ci fu il suicidio di Lombardini, tutti cercavano Cossiga, le grandi firme, i grandi settimanali, i big, insomma... E io da umile collaboratore di Sette, magazine del Corriere, insomma, fui mandato dal direttore a chiedere un'intervista. Lui mi fece fare un viaggio mirabolante che si concluse in Sicilia, ma alla fine mi diede l'intervista, fu un piccolo scoop, e 6 mesi dopo mi assunsero al Corriere. Questa era Cossiga, no, lo dico anche perché... rompe spesso anche le gerarchie, gli piaceva spiazzare. No, gli piace innanzitutto, non parliamo al passato, gli piace. No, gli piaceva nel senso quando all'epoca, era attivo, sì, certo. E nel 99. E un altro che gli deve un'assunzione è Mario Calabresi, quando si ruppe l'UDC, sì. Praticamente Lanza uscì con un lancio sibillino che diceva Cossiga ha abbandonato... No, scusa, l'UDC, l'Udeur, sì. L'UDR, sì. Si ruppe l'UDR perché Cossiga abbandonò Mastella. Sì, sì, e questa notizia, che allora è esplosiva perché era la maggioranza di governo, fu data con un sibillino lancio dell'Ansa. Si dice, la leggenda vuole, che il direttore dell'Ansa disse ma siamo sicuri, cercate il collaboratore che l'ha data e verificate se è vero, perché è una cosa grossa. Allora gli disse, guarda, abbiamo trovato Calabresi, te lo colleghiamo per telefono. E pare che Calabresi gli chiesero, ma sei sicuro delle fonti? Cioè, e lui rispose, guarda, sono a casa di Cossiga, me l'ha detto lui. Fantastico. Beh, insomma, per fortuna non siamo ancora in una situazione di questo tipo. Seguiamo con grandissima attenzione l'evolversi di una situazione che era già piuttosto complicata negli ultimi mesi, no? Che evidentemente si è andata aggravando. E chi conosce Francesco Cossiga da tantissimo tempo è anche Paolo Guzzanti, che saluto. Ciao Paolo, buonasera. Ciao, eccomi qua, grazie di avermi chiamato. Appena tornato dagli Stati Uniti. No, sono ancora negli Stati Uniti. Ah, sei negli Stati Uniti, perché mi hanno detto che eri appena tornato? Vabbè, ogni tanto c'è qualche comunicazione. No, ti leggo un'agenzia che è appena uscita, se non lo sapessi. Sarebbero aggravate, secondo quanto si è appreso, le condizioni di salute del senatore a vita Francesco Cossiga, ricoverato questa mattina al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per problemi respiratori. Per cui stiamo seguendo questa situazione. Cossiga. Sono già varie volte mi che noi frega. Io sapevo che Francesco Cossiga stava andando male, sempre peggio, ho provato a contattarlo recentemente ma non era mai stato possibile farmelo passare e quindi penso che... Speriamo in bene, insomma, speriamo. Sì, stiamo un po' a guardare. Certo. Gli auguriamo, io se possiamo, io personalmente... Magari ci sente, magari ci sente qualcuno vicino a lui, sì. Con la speranza di vederlo presto in piedi, vivo, vivace e brillante. Luca, volevi dire? No, dicevo che già varie volte Cossiga ha fregato le complicazioni sanitarie. Sì. E tra le cose per cui lui ha lasciato un segno in questi anni è anche, come dire, l'atteggiamento del tutto irrituale verso la malattia. È noto che lui scrisse un famoso articolo sul Corriere della Sera dicendo che apparteneva al Club K insieme a Ciampi e Berlusconi. Ora mi pare che anche lì ci mise del suo, perché nessuno sapeva che Ciampi era malato di tumore e quindi fu una specie di outing di riflesso su un'altra persona. Allora, Guzzanti, dagli Stati Uniti questa situazione italiana che è precipitata così all'improvviso nelle ultime settimane, forse non tanto all'improvviso, come la si vede questa situazione? Ma guarda, gli Stati Uniti direi che non gliene frega assolutamente niente, perché una cosa di cui mi rendo conto ogni volta che vengo qui, leggendo la stampa americana, perché uno non legge solo il New York Times e il Washington Post, dove trova, ma insomma al pubblico americano, ma anche ai politici americani, ormai di quello che succede in Italia, contrariamente a ciò che molti italiani pensano, che vedono sempre l'americano che tresca dietro l'ombra, non gliene importa nulla. Questo perché la vera frontiera, noi una volta eravamo un paese di frontiera, la vera frontiera oggi è nel Caucaso, è molto più importante per gli americani quello che succede in Kirghizistan o in Bielorussia o anche nei Balcani di quello che succede da noi, per cui ogni tanto affiorano delle battute, dei raccontini, delle cose, specialmente sulle attività e le curiosità superficiali che implicano il nostro, come dire, fantasioso Presidente del Consiglio. Certo che spiegare la rottura tra Fini e Berlusconi è un po' complicato. No, è troppo complicato. Quindi io non posso dire di più su quello che pensano gli americani, perché ho l'impressione che i giornalisti americani rinuncino a spiegare ai loro lettori una situazione così non traducibile in inglese, no? Come si diceva una volta dei discorsi di De Mita. De Mita è uno che non potrebbe mai essere tradotto in inglese. Tulliani. Molte cose che succedono in Italia non potrebbero essere tradotte in inglese. Che diceva Luca Tulliani, no? Intraducibile, Tulliani. Anche. Tulliani, intraducibile. Senti, ma questa... Ah, questa... Io approfitto per salutare Luca Telese, che prima ho riconosciuto, sì, la voce. Sì, eccolo. È lui. In linea. Luca, ciao, un abbraccio. Un abbraccio anche a te. Allora, ma la vicenda, Paolo, scusami, volevo sapere che ne pensavi sulla vicenda di Monte Carlo, perché anche ieri in un'intervista a Repubblica una persona notoriamente moderata come Enrico Letta parlava di killeraggio, addirittura di squadrismo. Io, per la verità, non ci vedo nulla di tutto ciò. È evidente che la campagna del giornale e di Libero in parte è nei confronti di Gianfranco Fini per motivi politici abbastanza evidenti, però qui ci sono fatti, che poi a un certo punto ha dovuto cavalcare o comunque ha dovuto scavare anche il Corriere della Sera. Che ne pensi? Dunque, guarda, proprio stanotte, usando questo nuovo aggeggio che si chiama iPad, senza fare la reclama alla Apple, ma insomma... ma tanto non ne ha bisogno, italiani, diciamo. Sul, ce l'ha anche Cruciani. e mi sembra che sul foglio di oggi ci sia un articolone miscellanea in cui c'è raccontato tutto ciò che i giornali italiani, compreso il Corriere della Sera, mi pare anche La Stampa, per non dire del giornale di Libero, hanno raccolto su questa vicenda. E mi è sembrato un pezzo antologico molto ben fatto. D'altra parte il giornalismo, noi giornalisti dobbiamo assolutamente occuparci di tutto e essere completi e onesti, nel senso che non dobbiamo poi mettere né aggiungere né togliere alle informazioni ciò che non fa parte dell'informazione, a meno che poi una parte non fa il commento, no? Certo, uno fa il commento, l'editoriale, lì può dire quello che gli pare. Allora, non c'è dubbio che quello che ha fatto il giornale risponde ad un disegno politico, cioè se Fini fosse stato lo stesso Fini con la stessa casa di Monte Carlo, fosse stato alleato fedele di Berlusconi, Fini, certo. Il giornale lo avrebbe difeso a sparatratta, gli stessi autori degli stessi articoli probabilmente avrebbero trovato tutto una cosa normalissima. Eccetera. Lì è chiaro che normale non è, perché ci troviamo di fronte a questo caso di un bene di un partito che viene alienato in circostanze che nemmeno Fini dice di conoscere, ma in cui c'entra il suo nuovo cognato, il quale avrebbe promosso la vendita di questo bene per poi andarlo personalmente a occupare pagando un fitto di cui io non so valutare, non ho letto che dovrebbero essere 1500 euro al mese. Insomma, a me le spiegazioni, Paolo, le spiegazioni di Fini che sono presenti oggi sui giornali, che avrei letto pure te, mi sono sembrate delle non spiegazioni, quasi un boomerang. Devo dare la linea al traffico, poi torniamo subito. Un ascoltatore insiste ancora su questa cosa di Luca Telese. Io, non per fatto personale, ma devo difendere Luca da questo attacco assurdo che ha subito oggi dal giornale. Nel giornale sia io che Luca abbiamo tanti amici. E non capisco francamente il tono di certe cose e il perché di certe cose. Allora, un ascoltatore da Livorno ci scrive: è vero quello che c'è scritto sul giornale di oggi, che l'ospite fisso di Cruciani, a parte che Luca non, vabbè, comunque è cugino di, parente di, eccetera, e siccome ha scritto un articolo sulla cognatite allora sarebbe in contraddizione? Per qualche minuto ne parleremo. Luca, che vuoi fare? Me lo dicono, mi pressano su questa cosa qua, ne vogliamo parlare? No? Se vuoi io, tranquillamente. Paolo Guzzanti, Partito Liberale, mitico Partito Liberale. Mitico Partito Liberale. Allora, io sono molto intrigato, il Partito Liberale... Che succede al Partito Liberale? Un attimo, Paolo, un secondo. Un fatto personale. Paolo. Allora, l'articolo di oggi, pagina 6, pagina 6 del giornale, viene riportato un articolo scritto da Luca ieri, che aveva un editoriale, che era un editoriale con il titolo Cognatite. Ed è un articolo sostanzialmente partiva dalla vicenda di Tulliani, poi insomma era nella direzione, non dico simile a quella del giornale, ma insomma certamente non sfavorevole alle inchieste del giornale. Tra l'altro Luca, sulle inchieste del giornale ha sempre avuto una posizione molto, molto chiara, cioè giornalismo non è spazzatura, ma non è questo. Io infatti ho fatto un articolo spiegando che la cognatite è una cosa molto semplice: uno ha un cognato e lo piazza in un posto che dipende da lui, oppure lo fa lavorare in un posto in cui lui è dirigente, capo, responsabile, oppure un cognato chiedere di essere piazzato da un parente più nobile, più potente. Questa è la cognatite. Allora, il fatto che qualcuno abbia un cognato, tutti abbiamo dei cognati, ma io mai nella mia vita ho un debito professionale con Bianca Berlinguer e lei con me, quindi... tutto qua. Perché il giornale riporta l'articolo integrale di Luca e poi titola l'intrepida denuncia del fatto Corsaro contro la cognatite, e in fondo all'articolo c'è scritto: giornalista Luca, marito di Laura Berlinguer, cognato di Bianca Berlinguer, figlia dell'ex leader del PC Enrico Berlinguer, cugino del presidente emerito Francesco Cossiga. Addirittura cugino di Cossiga. Devo dire, questa è una deriva, come si usa dire, una deriva oscena che ha preso una parte del giornalismo italiano, per cui si dà per scontato che anche i rapporti di sangue, di amore, di sesso, di parentela implichino necessariamente cose losche, vili, corruttorie, senti chi parla, guarda, guarda chi sono i suoi figli, guarda chi sono i suoi genitori o i suoi fratelli. Sì, tra l'altro in questo caso, Paolo, cognato di Bianca Berlinguer è come se è qualcosa nella carriera di Luca. Poi appunto, cognato di Bianca Berlinguer, allora... Vabbè, siccome siamo tutti d'accordo, voglio chiedere... E allora chiederei a questo giornalista del giornale, e quindi allora vai avanti, prosegui. E dunque, che vuol dire? Perché non è chiaro che cosa si vuol dire. È chiaro che... Non ha diritto a scrivere un articolo sui cognati, questo è il punto. Approfittare di questo articolo sui cognati per dire, senti chi parla, anche lui è cognato di qualcuno. Caro Luca, direi che l'abbiamo scampata bella tutti e due, ma insomma... Voglio chiedere una cosa a Paolo Guzzanti, ed è questa. Non è che per caso aderisce al gruppo Futura Libertà, dato che è nel gruppo misto oggi, no? Non ci penso per niente, mentre sono interessatissimo ad avere come partito liberale, perché io non sono un cane sciolto, Paolo Guzzanti nel gruppo misto, io sono così fiero di essere vice segretario di questo partito rinato, in cui si stanno iscrivendo tra l'altro un sacco di ragazzi, con mia grande sorpresa, perché mi aspettavo che venissero dei vecchioni, della gente che ricordava il vecchio partito liberale, invece vengono un sacco di giovani che dicono io sì liberale, sì sono liberale, oppure ho sempre saputo di essere liberale, quindi sono molto fiero di far parte, di essere un dirigente di questo partito, e allora come dirigente di questo partito sono molto interessato a quello che farà Fini, a quello che fa tutta questa area. Però no, nel gruppo parlamentare non aderisce a Futura Libertà, non ha intenzione di aderire, no? No, ma per aderire sarebbe una follia, non si può fare un lavoro comune se ci sono le basi, in questi casi ci si siede davanti a un caffè e si parla e si vede di fare... Perché una follia, chiede Telese? Telese chiede perché una follia? Pronto? Telese dice perché una follia? Ma perché sarebbe farsi assorbire, io sono contrario a qualsiasi forma, contrario all'identità, come dire io non conto nulla, adesso arriva una figura, un'entità più grossa, più importante, che poi finora è sformata soltanto da un episodio di parlamentarismo, di trasformismo parlamentare, quello cioè di cui faccio parte anch'io. Sono un trasformista parlamentare perché ho cambiato partito, ma i partiti e i movimenti si consacrano nel momento in cui il popolo sovrano li vota, e partecipare a questo nuovo gruppo non fa parte del mio DNA, lo guardo con attenzione, lo guardo con rispetto, sono pronto a dialogare con loro, vedere se c'è una strada da fare insieme, in vista di che cosa e con quale calendario, questo sì, ma non c'è nessun motivo per cui... Ho capito. Senti, Guzzanti, lei pensa che Fini per questa cosa dovrebbe dimettersi, per questa storia della casa di Monte Carlo, oppure è eccessiva questa richiesta, che fa anche il giornale peraltro? No, mi sembra un po', questa mi sembra assurda, perché insomma qui si sta parlando del bene, di una proprietà, di un partito politico, in cui dopo alcune vicende che sono tuttora oscure e quindi non sono chiare e quindi sono potenzialmente losche, anche se non è detto, ma insomma noi sospettiamo, abbiamo ragione di sospettare che non tutto sia pulito, ma non è provato, e ci troviamo dentro questo abitante che è il nuovo cognato di Fini. Beh, questa mi sembra una vicenda tutta interna ad una storia di questo partito, non capisco Beh, insomma, uno potrebbe dire il presidente della Camera. Capisco che l'effetto boffo, questa pratica di attaccare, colpire e poi vedere vacillare e cadere, talvolta funziona, ma anche questo io mi chiedo pure questo se è giornalismo, ma insomma, anche parlandone da giornalisti, ma io ne parlo più, diciamo, in questo momento da politico, perché un giornalista deve solo raccontare i fatti, insomma, raccontarli, analizzarli, dire anche il proprio pensiero. Ma alla risposta diretta rispondo no. Luca, che ne pensi invece tu? Anche dopo le spiegazioni, che secondo me sono non spiegazioni di Fini... Lui ha detto... No, su Giancarlo, su Tulliani... Sì, beh, insomma, non sono state particolarmente convincenti, questo l'hanno registrato oggi un po' tutti, anche lo stesso Corriere della Sera, insomma, per dire. Luca? Credo che quello che avevamo scritto nei giorni scorsi, cioè che la versione non era convincente, si sia confermato. Fini ha scelto di sacrificare il cognato, per l'appunto, e probabilmente il cognato se lo merita, visto che tipo è, visto la sua storia, visto i racconti della sua ascesa, sempre legata alle fortune e ai compagni della sorella. Quindi credo che Fini non si debba dimettere, c'è il pasticcetto, c'è anche il capro espiatorio, la cosa credo che finisca qua. Ah, secondo te finisce qui? Sì, non credo che Fini si debba dimettere, perché è vero che non gestiva la cosa pubblica, rimane una pagina... Anche Scajola, da questo punto di vista, non gestiva. Una piccola, ma lì c'era la corruzione, vero? O il Scajola... Comunque c'erano dei soldi che non venivano da Scajola, cioè qui Fini è accusato di non aver amministrato bene il patrimonio del suo partito. Lì Scajola ha ricevuto dei soldi, se lo proveranno i magistrati, ma questa è l'ipotesi di accusa, che non sono suoi, quindi non è lo stesso caso. Sì, però in tutti e due i casi non si tratta di soldi pubblici, si tratta, diciamo, di persone che dicono io non sapevo una cosa che in realtà dovresti sapere. Insomma, mi verrebbe da dire in tono conclusivo, ma sono fattacci loro, insomma ci sarà una sfera in cui uno, se non tratta denaro pubblico ma denaro... della zia, della cognata, della sorella o anche della propria associazione bocciofila, sono fatti suoi, a meno che un magistrato non ritenga diversamente. Guzzanti, abbiamo un minuto, volevo chiedere una cosa. Secondo lei, mi faccio una previsione, ma questa legislatura finisce quando finisce? Una previsione, non un auspicio. La mia previsione è che questa legislatura regga e che nessuno abbia vero interesse, tranne Berlusconi, ma con alcune riserve, perché è vero che Berlusconi è tentato dal grande slam, no? Dice, ah sì, questo mi avete combinato. Intanto Berlusconi si trova in questa situazione in cui nessun presidente del Consiglio o primo ministro si è mai trovato, cioè lui ha distrutto con un suo gesto politico la propria maggioranza. Ce l'aveva, il popolo gliel'aveva data, a lui e alla sua coalizione, e lui l'ha distrutta perché ha ritenuto di far fuori Fini, ma ha sbagliato i numeri. E allora perché dovrebbe tenere la legislatura? Ma perché Berlusconi è l'unico che potrebbe avere questa tentazione, tutti gli altri non ce l'hanno. Io personalmente la considererei una sciagura, perché noi non siamo, per esempio, pronti per competere, e io voglio competere e voglio essere pronto per competere. Ma poi io penso che per poter sciogliere le Camere non basta che lo dica Berlusconi, lo deve dire il Presidente della Repubblica, il quale, se io fossi il Presidente della Repubblica, contesterei a Berlusconi il diritto di chiedere elezioni anticipate, visto che è stato lui, con un suo gesto sovrano, a rompere e a distruggere la propria maggioranza. Non è che ha subito il ribaltone come tempi di tempo. Insomma, la previsione di... direi... Ho capito. La previsione di Guzzanti... La mia previsione poi è che ci sarà un accordo di massima probabilmente sui quattro punti che Berlusconi, con grande, devo dire, sapienza, ha saputo proporre. Vedevo che ieri anche Scalfari notava. Però dobbiamo dare degli aggiornamenti dal giornale radio, perché anche aggiornamenti sulla vicenda di Cossiga. Tra poco, 800 24 00 24. Siamo qui 19:15 con la Zanzara, 800 24 00 24. Sentiamo subito i titoli del TG3. Berlusconi al Club della Libertà, mobilitazione permanente contro personalismi e disfattismi di chi pensa solo ai propri interessi. Il PDL, Fini si dimetta, lo chiedono i cittadini. Finiani, grottesca strumentalizzazione, il PD nel centrodestra volano manganellate. Nuovi roghi in Russia, dove è guerra di cifre sui morti, Pakistan e Cina ancora sott'acqua per l'ONU, la peggiore catastrofe nel mondo degli ultimi anni. Lettera con un proiettile di Kalashnikov spedita al figlio di 5 anni di Massimo Ciancimino, che dice non parlo più coi magistrati. Campo di mais, OGM distrutto da Eno Global, centrodestra diviso, il governatore del Veneto Zaia, ristabilita la legalità, il ministro Galan, azione squadristica. A Ciudad Juarez, crocefia del narcotraffico, 300 poliziotti assaltano il comando, il loro capo era colluso con i narcos e taglieggiava agenti e abitanti. Mia Farrow contraddice Naomi Campbell su diamanti regalati dall'ex dittatore della Liberia. Naomi mi parlò di un diamante enorme. e andiamo a sentire Sky TG24. Berlusconi chiama alla mobilitazione contro disfattismi e personalismi. Problemi respiratori per Cossiga, si aggrava l'ex presidente ricoverato al Gemelli. Stupri domani dal GIP, il giovane fermato a Capri, giallo sulla violenza a Roma. Abusi su una ragazza sordomuta a Novara, arrestato tunisino 32enne. Tentato furto delle reliquie di San Pio, l'urna messa al sicuro nel convento. Le alluvioni in Asia per l'ONU, in Pakistan peggio di tsunami e il sisma di Haiti. Incendi in Russia e il fumo a San Pietroburgo, a Mosca decessi raddoppiati. Scontro tra un cargo e una petroliera a Mumbai, allarme marea nera in India. Mia Farrow smentisce Naomi, mi disse di aver avuto un diamante enorme. Per l'esordio azzurro Prandelli punta sul tridente, Balotelli, Cassano e Amauri. Viva la Rai, se starai buono il tuo Mazinga vedrai. Oppure no, dipende dal funzionario Rai. Facciamo un piccolo riepilogo di quello che è successo venerdì mattina a 1 mattina. 1 mattina estate, con uno dei collaboratori del Premier, il parlamentare del PDL Sestino Giacomoni, il quale presentava i 2 anni del governo Berlusconi, il libro, bastonando anche politicamente, è chiaro, il presidente della Camera Fini. Andiamo. E devo dire che la stabilità in politica è tutto, perché proprio la stabilità è una maggioranza forte e coesa che ha consentito al presidente Berlusconi, a questo governo, di realizzare molte delle cose che lei troverà in un volume, certo, che vi ho certo, appena portato andiamo a parlarne, e che abbiamo dato alle stampe da poco. Quindi questa è la situazione. Consultate il sito del governo per capire cosa fa, perché dai giornali non si capisce molto bene. Consiglio comunque ai telespettatori di andarselo a vedere sul sito www.ilpopolodellalibertà.it, perché da un lato riusciranno finalmente a capire cosa ha fatto il governo, che è difficile capirlo leggendo i giornali. E poi i consigli per l'estate, il libro che è diffuso dal governo per elogiare i risultati ottenuti in 2 anni di governo Berlusconi, come libro da portare sotto l'ombrellone, sentite. Consiglio in questo mese di agosto come lettura i 2 anni anche di governo. Anche questo volume, 2 anni di perché governo. Perché ritengo che troveranno cose molto utili per accanto loro. Accanto ai giornali di gossip. Accanto ai giornali del gossip. Allora, la ringrazio, onorevole Sestino Giacomoni, PDL, e la linea va a Pierluigi. Uno mattina estate, perché ci vanno i politici? Dovrebbero proibire ai politici di andare a uno mattina. Estate, inverno, non ci dovrebbero andare, punto. Era Sestino Giacomoni, parlamentare del PDL, nonché collaboratore molto stretto di Berlusconi. Teatrino della politica. Questa sera all'interno del teatrino della politica Marco Pannella, perché a Radio Radicale sentite cosa dice. Se potessi incontrare Berlusconi, sono 3 anni che non lo vedo, gli direi io cosa fare, gli darei dei consigli, perché ormai lui è l'ultimo esempio vivente della partitocrazia. Pannella. Continuo a dire da 3 anni che ho il rammarico di non poter parlare con Silvio Berlusconi. Perché cosa? Perché devo avere da lui qualcosa. No, un fatto di vicende umane, anche di serietà, di amore per le idee, per i valori. Cioè lui non si rende conto, non sa le cose che fa. Le travolte. Perché? Perché lui è l'ultimo della partitocrazia. Non si rende conto di quello che fa e potrei spiegarglielo io se solo mi vedesse. Perché lui adesso i suoi problemi sono che i fatti sono più gravi, sono più grandi di lui, i fatti che lui ha provocato. Con una cosa di quale mi rammario, perciò so che lui può, mi ascolta, infatti lo sa e non vuole vedermi. L'ho detto anche ufficialmente. Dico, porca miseria, ci siamo parlati, sono sicuro che posso almeno farlo riflettere su alcune cose. Perché questo è accaduto in passato. Ancora su Berlusconi, vende bene i suoi prodotti. L'indicazione di come funziona la testa, Silvio. Cioè, è bravo in termini di promuovere, diciamo, commercialmente un prodotto. C'ho la pubblicità gratis, per quello è importante, la pubblicità nelle televisioni per i miei prodotti. E in più io in 60, divido il paese in 60.000 luoghi e nomino delle persone che fanno, come dire, i miei rappresentanti elettorali nell'ora strada, di sopra e sotto, gli do pure lo stipendio. Bene o male a seconda dei punti di vista, e andiamo a sentire le ultime sui diari di Mussolini. Riassunto delle puntate precedenti. Dell'Utri ho 5 agende in mano. La cosa di Lele Mora a Lugano non è affatto vera, non è vero. Ma non lo so, è la cosa delle cose vere che sono però condite di cose false, perché non ho mai letto a Lugano con Lele Mora i diari. Una sera, è vero, a una cena ho letto delle pagine alle Remora a Milano. Tutto qua, quindi c'è del vero e c'è del falso. Questo è l'ultimo dell'Utri, quando smentisce quello che ci aveva detto qui Lele Mora, che vi faccio ascoltare. Io ne ho 3, li tengo a casa mia a Lugano dove vivo, e me li leggo, tante sere facciamo delle cene e ce li leggiamo. E anche con Marcello Dell'Utri ci troviamo a fare delle cene. Dunque Dell'Utri smentisce Lele Mora, ma ci sono dubbi naturalmente sui diari, sulla veridicità, sull'autenticità dei diari di Mussolini. Per esempio Don Assunta Almirante. No, no, non ci credo. Non ci credeva nemmeno mio marito, non ci credeva, eppure l'ha avuto vicinissimo, nello stesso palazzo. Giorgio mi diceva che era di una modestia, veramente di una modestia, che faceva quasi dispiacere vedere un uomo così in alto, che era diventato, figuriamoci se quello scriveva, ma proprio stava lì a pensare e basta, non ci credo io. Un'arrabbiatissima Elisabetta Sgarbi della Bompiani, che pubblicherà i diari, che dice: io non devo dimostrare nulla. A me interessa un'operazione editoriale che mi sembra interessante, non voglio dimostrare né che siano autentici né che siano inautentici, non devo dimostrare nulla. Alessandra Mussolini, i diari sono veri. Ci sono stati anche dei periti, l'hanno letti, l'hanno fatto. Poi gli storici devono sempre dire no, non è vero, come i critici d'arte, no? Oppure il Caravaggio è vero e falso. Questi diari sono veri. E infine Dell'Utri, venerdì scorso, qui alla Zanzara, se i diari sono autentici, altrimenti il falsario sarebbe molto bravo. La verità forse l'ha detta la Sgarbi, perché in effetti queste agende, quando ne parlai con Elisabetta Sgarbi, io dissi subito: guarda, vere o false, io non lo so, non lo sa nessuno. Sono però interessanti, scritte intanto benissimo, ma dico, si pubblichino così come sono, non c'è bisogno di fare affermazioni e dare certificati di autenticità o di falsità, che credo nessuno possa dare, né in un senso né nell'altro. E il mistero e l'attesa continuano. 800 24 00 24, ascoltatori qui alla Zanzara, Francesco da Roma, buonasera. Intanto c'è una polemica, un'ulteriore polemica, per alcune frasi pronunciate da Daniele Capezzone nella mattinata di oggi. Le frasi sono queste: se Gianfranco Fini vuole compiere un atto di dignità e non di viltà politica, deve rassegnare le dimissioni del Presidente della Camera. Le sue dimissioni sono ormai inevitabili per due ragioni. Primo, è ormai un caso pubblico per milioni di cittadini la scarsa trasparenza della situazione relativa alla casa monegasca, e quelle fornite ieri da Fini sono delle non spiegazioni. Questo è il primo motivo. Per altri, in circostanze meno gravi, Fini hanno reclamato dimissioni immediate. Secondo, Fini non è più super partes e da tempo nella sua funzione di terza carica dello Stato. Risposta pochi istanti fa di Bocchino: il Premier smentisca Capezzone sulle dimissioni di Fini oppure stop a dialogo. Questa vicenda non finirà mai, finirà in un disastro totale. Francesco, prego. Ah, buonasera, senta, volevo dire la mia sull'affaire Fini e casa di Monte Carlo. Innanzitutto sono stato per anni un militante di Alleanza Nazionale e ho criticato Fini un po' per la gestione del partito, e questo, diciamo, questa affare, diciamo, nasce un po' dalla gestione del partito. Però ripeto, anche sono d'accordo con Fili, cioè questo è un atto interno al partito, perché ci sono, è un atto sui quali vanno fatti dei distinguo, perché sembra che sia stata fatta una perizia per accertarne il valore. Cioè, secondo lei è una questione interna al patrimonio di Alleanza Nazionale, dunque sì, è una cosa che non ha rilevanza pubblica, mi scusi? No, è una questione interna al patrimonio, anche perché lui non ha trattato soldi pubblici. E richiami alla legalità l'ha fatto su dei reati compiuti, su dei presunti reati compiuti per quanto riguarda i soldi pubblici. Sì, d'accordo, Francesco. Per corruzione, no, per no, ma ho capito benissimo, Francesco. Per carità, la sua opinione è assolutamente legittima, c'è una corrente di pensiero che la vede in questo modo. Io credo che sono dei distinguo piuttosto sottili, cioè qui abbiamo a che fare con un patrimonio di Alleanza Nazionale che è stato gestito in un certo modo, e su questa casa di Monte Carlo ci sono state versioni le più disparate fino adesso. La spiegazione che ha dato Fini ieri non mi sembra particolarmente esaustiva, soprattutto per quello che riguarda il rapporto tra Fini e la famiglia Tulliani. Luca da Treviso, buonasera. Sì, buonasera a lei, salve. Innanzitutto i migliori auguri al nostro ex Presidente della Repubblica. Speriamo che sia meglio, insomma. E niente, io intervenivo perché siamo le solite, cioè se casca il governo si vanno a spendere altre decine di milioni di euro per votare, quando di fatto si potrebbe fare un governo tecnico e tirare avanti. Luca, i soldi spesi per le elezioni non sono mai soldi sprecati, questa è la mia idea. Il governo tecnico è un'ipotesi politica che non ha niente a che fare col fatto che non bisogna spendere soldi, altrimenti faremo un governo tecnico per 50 anni senza spendere una lira e senza mai fare le elezioni. Che significato ha? Assolutamente, però la situazione economica non mi sembra delle migliori. Cioè, lo Stato, l'economia del governo ha bisogno di sicurezza, ha bisogno di tranquillità. Questa è una cosa. E sì, poi, d'accordo, ma la sicurezza e la tranquillità e la stabilità si assicurano attraverso un esecutivo tecnico, che poi tecnico non sarebbe perché sono sempre le forze politiche a dare la fiducia. Assolutamente, anche perché non c'è un'opposizione chiara e forte in questo momento, non ci sarebbe un'alternativa. E allora? Niente, quindi io mi auguro semplicemente che si trovi una soluzione per non sprecare denaro pubblico. D'accordo, secondo lei andare a votare significa sprecare denaro pubblico, comunque andare a votare di continuo. Abbiamo la borsa 800240024, torniamo tra un attimo. Bene, 19.32, 80024, 0024, Massimo da Lecce, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Senta, io intervenivo a proposito della vicenda Vittorio Feltri, Fini e la Casa di Monte Carlo. Io dico che non possiamo stare sempre dietro a queste pazzie, tra virgolette, di Vittorio Feltri, perché ormai ci ha abituato con Follini, con Guzzanti, con Fini nel 2008, quando ancora era titubante, se allearsi con Berlusconi, con Dino Boffo poi ci ha stupito, per tre mesi ci ha martellato su un'informativa falsa, l'ha detto lui rispondendo a una lettrice del suo giornale, e poi dopo così candidamente dice sì, è vero, era falsa l'informativa, mi sono sbagliato. Cioè, è molto semplice giocare in questo modo. Quantomeno avrebbe dovuto per tre mesi Feltri scrivere sul giornale a proposito di Boffo, per tre mesi, così come ha martellato Boffo, dire mi sono sbagliato, per tre mesi, mi sono sbagliato, cosa che non ha fatto. Quindi il gioco di Feltri lo sappiamo benissimo qual è: screditare gli avversari finché sono gli avversari di Berlusconi, insomma, finché sono dall'altra parte va tutto bene, tutto viene nascosto. Però Massimo, mi scusi, naturalmente lei può contestare ogni singolo episodio, ogni campagna del giornale. Mi sembra che in questo caso, al di là del fatto che sicuramente il giornale fa un'operazione politica nei confronti di Gianfranco Fini, comunque diciamo prende di mira Fini perché ha rotto con Berlusconi, eccetera eccetera, anche se bisogna notare che Feltri fu il primo a parlare di Fini come un leader politico che voleva distanziarsi da Berlusconi all'incirca un anno fa, per cui insomma da questo punto di vista la campagna del giornale non è sempre dettata dall'agenda politica. Comunque, in ogni caso, perché non guarda le cose punto per punto e argomento per argomento? Cos'è che non la convince di questa cosa sulla vicenda di Monte Carlo? Innanzitutto perché se è vero che siamo garantisti, no? Come si usa dire in questo periodo, siamo garantisti, insomma, ho sentito prima le notizie di Radio 24, la magistratura sta indagando su questa vicenda di se c'è stata una vendita al di sotto del suo valore reale. Quindi finché se il garantismo vale per... Sì, ma la questione non è giudiziaria, la questione non riguarda il diritto, l'indagine magistrale, la questione è politica. Vabbè, Cruciani, però Fini non ha detto, è vero, io ho dato a casa agevolando mio cognato, cioè non ha detto questo, Fini ha detto, non è vero tutto quello che detto la Feltri, quindi se c'è... No, Fini ha detto che ha provato disappunto quando ha saputo, pochi mesi fa... No. Qualche tempo dopo la vendita, tra l'altro, non qualche mese, che il signor Giancarlo abitava nell'appartamento. Ora, francamente, insomma, ci sarebbe molto da dire su questa frase, no? Su questo punto 8 del comunicato del presidente della Camera. Qualche tempo dopo la vendita, ho appreso da Elisabetta Tulliani che il fratello Giancarlo aveva in locazione all'appartamento. La mia sorpresa e il mio disappunto possono essere facilmente intuite. Fini però sta dicendo semplicemente io la casa che era in dotazione al partito l'ho data a una società, l'ho venduta. No, una la segnalazione, poi... la segnalazione della vendita, peraltro, ha detto Fini, è venuta dallo stesso Tulliani. Okay, cosa c'entra Tulliani col partito? Uno potrebbe dire, cosa c'entra col partito? Perché sapeva dell'esistenza di questo appartamento? Insomma, ci sono delle cose. Non stiamo parlando di denaro pubblico, per carità, ma ci sono delle cose che insomma sono abbastanza clamorose. Che Fini non chiarisce, o comunque se pensa di aver chiarito, in realtà non ha chiarito. Cruciani, resta il fatto che Vittorio Feltri non può fare queste azioni sporche. E sì. Noi stare dietro di lui, così come è stato col caso Boffo. Secondo perché me, lei paragona il caso Boffo col caso della casa di Monte Carlo? Perché questa è una strumentalizzazione bella e buona. Allora, lei dice che insomma sono tutte bastonature mediatiche. Luca, eccolo qua. Ancora, vi ho lasciato mezz'ora fa sui Tulliani, ancora Tulliani. Ancora sui Tulliani. Fra poco avremo Lucio Barani. Lucio Barani, l'amico di Aulla che fece erigere la statua per Craxi, anzi c'è. Eccomi. Onorevole Barani, come sta? Bene, bene, grazie. Dove si trova? Mi trovo a Sarzana a vedere una mostra di antiquariato. Beh, insomma, Telese è una cosa eccezionale. Sì, è veramente, veramente eccezionale. Telese, dove sei? Sono in redazione. Che stai facendo? E penso che mi costringerai oggi o domani a scrivere un pezzo. A questo punto, scusami, tanta ferocia sul caso Tulliani. Ma che dobbiamo fare sulle case della libertà? Su tutte le altre. Quali sarebbero le case della libertà? Alla palazzina di Via dei Prefetti dell'ex ministro Lunardi, la casa. Avete che scritto ancora... in abbondanza su questo, no? Hai scritto in abbondanza, è stato scritto in abbondanza su questo. Beh, ma molto meno, no? Bah, molto meno. Cioè, qui sta montando, giustamente abbiamo esaurito la cosa, ma allora le altre ce le siamo dimenticate. No, ma non dimentichiamo poi, nulla. Poi ripeto, la differenza è che tu non accetti, ma che io insisto, è amministrare il denaro di un partito o amministrare il denaro pubblico, un po' diverso. Sì, ma ripeto, ci sono ipotesi di corruzione, eccetera, eccetera, per quello che riguarda, non so a che punto siamo, i casi che hai citato. Però qui la questione, a me non me ne frega niente delle indagini della magistratura. Il problema è politico. Quando uno si erge a... paladino della legalità e poi non chiarisce su una cosa insomma, abbastanza chiara sarebbe facilissimo chiarire la vicenda della casa di Monte Carlo. Evidentemente i rapporti di Fini con la famiglia Tulliani sono decisivi anche nelle scelte di Fini, o no, Luca? Sono anche compromessi, nel senso che lui ha detto chiaramente, ha lasciato intendere che se c'è qualcosa di illecito l'ha fatto il fratello di Elisabetta Tulliani. Lui è stato ingannato, dunque. E dice. Quel disappunto, sì. Non so se l'hai già... Come no, il disappunto. È un disappunto che cade anche su Elisabetta. Dici, Scusa, preso con disappunto, non è che ha solo appreso. Oppure poteva dire lo ha preso e non dire che l'ha preso a lei. Quindi c'è una l'hai sentita sì, questo sì, l'hai sentita l'ultima polemica tra Capezzone e Bocchino. Capezzone dice che Fini si deve dimettere, ma non è la prima volta, e Bocchino dice che Berlusconi deve chiarire, altrimenti stop al dialogo. Vabbè, ma è un gioco delle parti che presto finirà, secondo me, a settembre. Barani, la sua previsione qual è? Quando si arriva allo showdown? Ma innanzitutto è preoccupante sapere che la terza carica dello Stato è influenzato c'è un'influenza familiare sulle vabbè, sue quello decisioni. Tutti però, quello tutti hanno possono avere un'influenza dalla moglie, dall'amante, dalla... E ce ne stiamo, lustri, se dobbiamo dipendere dagli umori delle anche donne. Telese, anche Telese viene influenzato dalla moglie, anch'io, tutti. Va bene, allora, certo che noi ringraziamo. Sua moglie avrà qualcosa da dire sulla sua... No, sua ma noi di Cultura Socialista ringraziamo Fini, perché sta facendo emergere due figure di due grandi socialisti, come Giuseppe Saragat e Sandro Pertini, che sulla questione morale hanno da insegnare a tutti quanti noi. L'uno si è dimesso da presidente dell'Assemblea Costituente perché aveva fondato un partito, e l'altro, solamente perché c'era stata una scissione nel PSU, si è dimesso da presidente della Camera. Secondo lei si dovrebbe dimettere Fini, dunque? Si dovrebbe dimettere. Quelli erano veramente i padri costituenti. Io sono uno che ha votato Fini, presidente della Camera. Adesso non lo farei più. E dunque si deve dimettere, secondo lei? Ma io credo che lo farà, perché, come diceva Bettino Craxi, poi anche chi, insomma... Che diceva Craxi? Diceva di Fini che in politica non è che aveva grandi maroni, però era uno responsabile. D'altronde, cioè, in che senso? Che diceva di Fini, che non era granché in politica? Certo, che non aveva i maroni di un politico. I maroni di un politico, eccezionale. Luca, te la ricordi questa cosa? I maroni di un politico, è bellissimo. Allora, devo dire che Barani è un cultore di Bettino Craxi. Vabbè, allora io però ho chiamato l'onorevole Barani perché? Per farmi chiarire una cosa. Nella polemica con la sua ex collega di partito, Chiara Moroni, lui ha detto: guardate che la politica, nella scelta di Chiara Moroni di passare con i Finiani, non ha niente a che fare. Cioè, la politica non c'entra niente. Non state a guardare il garantismo, il giustificazionismo, eccetera, eccetera, gli scandali, eccetera. La politica non c'entra niente. Sono questioni d'amore. Se c'entrasse la politica, doveva rimanere con Berlusconi, perché suo padre, pur di dare dignità ai socialisti, ha il gesto estremo, si è suicidato solamente per un avviso di garanzia. Vabbè, insomma, lei dice la politica non c'entra nulla, c'entrano questioni d'amore. E quali sarebbero queste questioni d'amore, onorevole Barani? Credo che sia una questione sentimentale, come una giovane donna può avere degli innamoramenti, come anche le questioni di Fini, che adesso non più il garante come terza carica dello Stato, lo deve, come ha messo lui, e gli hanno capito i familiari, la buona fede, forse anche il portafoglio. E dunque, nel caso di Chiara Moroni, che succede? Credo che siano più questioni di natura personale, diciamo, fra virgolette. Poi tra voi giornalisti scoprire perché. Telese. No, non ci siamo. O uno crede o uno sa. Se sa, dice, se no tace. Barani, lei non può lanciare, il sasso e poi dire: beh, adesso sta a voi indagare, perché lei ha detto la politica non c'entra nulla, c'entra una questione di cuore. Cioè, sarebbe legata, si è legata di recente a qualcuno che l'ha influenzata su questo? Cioè, ce lo spieghi? Ma sicuramente sì, io rimango dell'opinione che non c'entra la politica, perché se c'entrava la politica, lei si trova nello scranno della Camera grazie a Berlusconi, che all'età di 26 anni gli ha dato lo scranno che fu di suo padre. E per le altre 300 nominate col silicone lei non lo dice questo? Chiara Moroni fa politica da quando aveva 14 anni. Andate a tastare il silicone. Chiara Moroni, e lei lo sa, Chiara Moroni... E lei lo sa, fa politica da quando aveva 14 anni. Ma io le 300 miracolate comprate non di silicone vado, è una non si entra nella sfera personale. Beata chi le ha sentite a silicone, le vorrei sentire anch'io in silicone. Beh, non sono 300, Luca. Vedo che chi parla il mio interlocutore si intende di silicone, lui avrà donne al silicone, io no, per adesso. Ti piace il silicone, Luca? Ti piace il silicone? Non come strumento di designazione delle classi dirigenti. Vabbè, adesso al di là di questa polemica, però, Barani, Telese ha ragione quando dice che insomma, lei, se sa qualcosa, e sa qualcosa, ci deve dire chi è il fidanzato, il compagno, non so, che ha influenzato Chiara Moroni così tanto da spingere ad andare con Fini. Ce lo deve dire a questo punto. Ma sentite il suo intervento alla Camera, credo che più chiaro di quello non ci sia. Non parlava di nessun compagno. Non parlava di nessun compagno. Ma voi sentitelo, poi se siete i bravi giornalisti dovete scoprire voi, perché vi devo togliere il lavoro? No, però la soddisfazione di scoprirlo. Luca, l'abbiamo sentito in diretta, noi l'abbiamo sentito più volte, non si capisce niente, non è che si capisce chi è il compagno o non so che ruolo abbia di Chiara Moroni. Questo è un compito vostro di giornalisti, diciamo. Ma che qui la politica non c'entra, c'entra di un altro posto. Lei sta mancando di rispetto. Come credo c'entra una sua sulla questione. Barani, un secondo solo, facciamo parlare Teresa un attimo, Teresa. No, ma non è fatto di rispetto, lui sta mancando di rispetto alla sua compagna, ed è anche banale, un po' infantile cercare di sminuire una scelta politica di una che da 3 anni vota in dissenso dal suo gruppo, per esempio sulle scelte della fecondazione assistita. Quindi se c'è una per cui quella scelta è legittima, è una sua linearità politica, è Chiara Moroni. Arriva lui e si inventa che è per una ragazza. Per un ragazzo, cioè per un uomo. Per un ragazzo. Per un uomo. No, è sperabile che non sia per una, che non abbia il vizietto, che sia per un maschio. Che male, perché è sperabile? Che male, non ci sarebbe niente di male, Barani? Certo, però per amor di Dio, io sono di ampie vedute, però insomma noi socialisti, come si suol dire, ci piace, siamo più eterosessuali che altro. Lei dice, perché i socialisti hanno questa particolarità. Lasciamo ai radicali e altre culture. Lo sapevi te che Luca e i socialisti hanno questa particolarità? Io no. Ma Bettino Craxi è stato un maestro in questo campo, Ah, Craxi era un maestro, le dice. Sì, e aveva gli anticorpi, non era come Fini che non ha gli anticorpi, si sono visti, che non era preparato agli innamoramenti, e credo che... Invece Craxi era uno tosto, insomma, che le donne... Aveva gli anticorpi e è riuscito a resistere. Cioè le donne le teneva al guinzaglio, le dice. Le teneva al guinzaglio, invece sembra viceversa, credo, dopo le dichiarazioni del Presidente della Camera, credo che sia lui... Cioè chi comanda tra Fini e la Tugliani? Chi comanda? La Tugliani sicuramente. L'ha detto Fini, non io, perché anche lì se la sua dichiarazione di ieri è da sentire, non da interpretare, è da riportare come veramente ha detto che lui è stato insomma, si è anche arrabbiato, è venuto a sapere dopo quello che la pastetta che in famiglia. Ho capito, Telesi, qui è uno spettacolo, cioè Craxi aveva le palle e Fini no, questa è la sostanza. Ma l'ho già detto fin dall'inizio. No, perché non sto dicendo. Io parlavo di Maroni prima. Quindi... Sì, vabbè, insomma, Telesi sto dicendo, hai sentito? Sì, Luca. Non lo so, perché Craxi aveva un mezzo battaglione di amanti, alcune delle quali sono state anche destinatarie di sostegni economici. Tipo Ania Pieroni per salvare il GPR. Barani però non ci dice una cosa, non ci vuole dire ancora questa roba qua. Noi dal discorso della Moroni non è che possiamo tirare fuori un nome. Si è parlato di un consigliere di amministrazione del Gruppo Espresso, è così, Barani? Io lo sto sentendo da voi, io non ho detto niente, ma lo sento, quindi siete già sulla buona strada. Siamo sulla buona strada, ma... Ma lo sento da voi, credo che la strada giornalisti... Adesso, al di là del fatto, Barani, mi scusi, al di là del fatto che Chiara Moroni possa avere una relazione non so con chi, non mi interessa, Beata lei. Almeno ritrova il suo equilibrio. Dico che... In che senso ritrova il suo equilibrio? La sua dichiarazione fatta alla Camera non ha niente di politico, lo ribadisco perché proprio nel discorso, citando il padre, partito dal padre Sergio Moroni, io sono uno che gli ha dedicato un monumento come vittima di Tangentopoli, quindi Sergio Moroni, citandolo come politico, appartiene ai socialisti, non appartiene alla famiglia di Chiara, allora... appartiene a noi, a Chiara appartiene come padre e glielo lasciamo tutto. Però non può citare Sergio Moroni il politico per una decisione che non ha niente di politico ma di personale, è solamente questo. Perché lei, perché io non capisco, no, ho capito, no, Barani, ma io infatti apprezzo la chiarezza, cioè voglio la chiarezza, però bisogna fare chiarezza fino in fondo. Lei dice la scelta non è politica, Chiara Moroni è stata influenzata dal fatto di aver conosciuto non so quando poi una persona, diciamo, che le ha fatto cambiare idea, questa sarebbe la cosa. E come l'ha cambiata Fini, l'idea, lei conoscendo la famiglia, può essere successo anche a Chiara, che è una ragazzina, si sta comportando da una ragazzina ambiziosa, tutto qui, insomma, lei non aveva mai fatto politica prima, la faceva il padre, lei è stata messa in politica sulle spalle del padre. Però Teresa, al di là del fatto quando ha iniziato a fare politica, ma scusa, è quest'uomo che vuole essere informato di tutto, dice delle sciocchezze in libertà, quella fa politica quando aveva 15 anni. Beh, insomma, però è entrata in politica, però Barani dice a Teresa bisogna dirgli che io sto col dito indicando la luna, lui si sta fermando al dito, quindi sono gli stolti che si fermano al dito, deve vedere di là dal dito quello che indica il dito. E io in quella dichiarazione che ho fatto, se tenete fosse obiettivo, dice: ho sbagliato anch'io, ha ragione, però gli viene male a chi insomma non è abituato a dar ragione a chi ce l'ha a dire che uno ha ragione. D'altronde, però, io ho Barani, parlato degli anticorpi che noi abbiamo, noi socialisti quegli anticorpi che Fini e magari altri non hanno, noi ce li abbiamo. Ma questi anticorpi che siano? Anticorpi da chi? Dalle donne? Anticorpi da chi? Certo, dall'influenza negativa di certe donne. Certe donne, sia nel lato A che nel lato B, possono carpire a certi uomini che non sono abituati alla buona fede e li possono portare sulla cattiva strada. Siamo allo spettacolo qui, Telese. Telese, però io insisto ancora su un punto, ma mica perché voglio fare del gossip, eccetera, perché quando uno dice una cosa di questo tipo, dice: no, guardate, quello che avete sentito alla Camera, quello che avete sentito dopo nelle interviste, sia qui alla Zanzara, sia a In Onda da Telese, e poi successivamente sui giornali, sono tutte panzane. C'è la questione politica, il garantismo, gli scandali, non c'entrano nulla. L'unica cosa che conta è il fatto che Chiara Moroni sia innamorata di una persona o comunque è influenzata da una persona. E così è successo per Gianfranco Fini. Ho capito, però insomma, ci dica un nome, Barani. Ma il nome lo posso anche non saperlo, sta voi giornalisti a scoprirlo. Io non voglio portarvi il mestiere, forza, voi siete già sulla buona strada, dovete arrivarci in fondo. Io faccio il parlamentare perché voglio continuare. Cioè, piglia Repubblica, prendi Repubblica, Luca, apri Repubblica. Apri Repubblica, Luca, fatti dare una Repubblica. Vai al consiglio d'amministrazione. Io non lo io non la compro Repubblica. No, lei, Barani, Telese. Come non la compra Repubblica? Si informerà. Io non compro Repubblica. Lei non compra Repubblica. No, è la consulta la Camera, la consulta la Camera. No. Non legge Repubblica. Non leggo la Pravda, io non la leggo. Lei non legge Repubblica. È come me che la Pravda, la Pravda di tutti gli altri. Dico... Va bene. Quando sarà uscito dal momento di alterazione mentale, forse potremo vedere questa storia. Abbiamo solo appurato che lui dice e non dice. Il peggio che un politico può fare, allora è meglio tacere. Barani, risponda. No, non l'ho sentito, non ho capito. Ha detto che è meglio tacere quando uno dice e non dice. Quando uno dice e non dice, è meglio tacere. Io credo di aver dato delle spiegazioni più che politiche di chi sia di Fini che della Moroni. Chi c'è nel consiglio d'amministrazione? Chi c'è? Di altro tipo di questioni. C'è questione di che? Di sesso? Di sesso o d'amore? Gaucci la pensa come me. Gaucci su che? Su Chiara Moroni? Non credo che pensi qualcosa, manco la conosci. Su Fini. Ah, su Fini. Domani Gaucci qui. Avete 118, dai. Come chiamate il 118, Luca? Ma no, il 118 è l'emergenza sanitaria, semmai il servizio psichiatrico. Il Telese non conosce neanche i numeri. Dai numeri. Dai numeri, però non li conosce. Ha bisogno di tutte. Ci può stare, conoscendo ci può stare. Vabbè, però non litigate. No, lungi da me, io però, per Dio, sono la persona più pacifica rosa, che esiste. La diffamazione rosa, come la chiami tu? Diffamazione rosa. Però la diffamazione per un politico essere appeso all'umoralità del sesso degli innamoramenti è una diffamazione, e lui, siccome è una donna, si sente di poterla diffamare. Tutto qua. No, lungi da me su chi ero troppo amico del padre per prenderla con la figlia. Che era dovuto a una situazione sentimentale il suo passaggio di campo, ne ha fatti tre. Vabbè, non si è innamorato di nessuno. Vabbè, lui non lo direbbe, siccome una donna giovane e anche carina, allora lo dice. No, e ma questo non c'è. Un po' mi fa schifo. Dici che è per questo? No, assolutamente. Io ho la memoria, ho in memoria il padre, quindi so quello che è costato a non aver più il padre alla figlia, e quindi sicuramente se ci fosse stato il padre in vita, questi capricci la figlia non li avrebbe fatti, perché la retta via non l'avrebbe smarrita. È un po' cresciuta la figlia, però. Sì, ma senza crescere senza un padre, una madre, ma soprattutto il padre, lei è una cosa brutta da non augurare a nessuno. Il padre serve, quasi soprattutto quando manca. Vabbè, insomma, lei insiste che in realtà dietro questa cosa di Chiara Moroni, che abbiamo sentito tutti alla Camera, cioè, ci sono questioni sentimentali. Ma questioni sentimentali serie oppure no? Questo non dovete chiederlo a me. Vabbè. Credo siano serie, perché per lasciare... Per abbandonare chi gli ha dato lo scrano, chi l'ha aiutata nel momento più difficile, significa che dietro ci sia qualcosa di importante. Almeno gli auguriamo e speriamo. Barani, grazie, buona serata. Grazie a voi, arrivederci. 19 53 20 800 24 00 24. Pietro da Milano, buonasera. Buonasera. Allora, innanzitutto io sono un ex militante di Alleanza Nazionale, quindi personalmente non mi stupisce la lite tra Berlusconi e Fini, o quantomeno il divorzio. Io personalmente non avrei scommesso una lira sulla durata del matrimonio, e questa è la prima cosa, perché era talmente palese che mi stupisco che Feltri ci sia arrivato un anno fa. Dice, ma il primo era Feltri. No, probabilmente il primo era, le prime persone che ci sono arrivate sono quelli che erano i militanti del partito, perché era troppo palese che Berlusconi e Fini non potessero andare d'accordo. Poi, se mi permette, visto che ho sentito l'onorevole socialista fino adesso, nuovo partito socialista, cioè all'interno del PDL, sì. Ecco, sì, l'onorevole che ha parlato fino adesso dicendo che i loro socialisti, se non ho sentito male, erano abituati o sono abituati alle donne, ha ragione. Guardi, io una volta, anni fa, abitavo in aeroporto a Linate, lavoravo a Linate, e io i socialisti, quando erano al comando, me li ricordo, ha ragione, erano talmente abituati ad avere gente intorno, a essere salamaccati, se mi permetta l'espressione, che non è proprio giustissima, comunque pieni di salamalecchi, di gente che li erano effettivamente abituati, ed erano abituati a gestire il potere come fosse roba loro. Allora, a me, abbia pazienza, ma siccome io nel 92 avevo 24-25 anni, quindi Mani Pulite me la ricordo, che un socialista faccia lezioni, tenga o provi a tenere delle lezioni sulla moralità, a me viene veramente da ridere, ma di più. Per cui, però Pietro, questa è una generalizzazione, abbia pazienza. Infatti io le dico, è la mia personalissima opinione, però a me viene da ridere. E comunque, cioè, Lucio Barani parla in quanto Lucio Barani, poi certo dice di rappresentare la tradizione socialista, quello che è. Socialisti, Grazzi, insomma, ha fatto tutto un discorso abbastanza, mi è sembrato abbastanza in plurale maiestatis, se non ha parlato loro erano, sì, ma sì, ha è vero. Ecco, per cui ho sentito noi, non ho sentito loro, per cui visto che si è tirato in mano noi socialisti, questo noi che insomma io abbia personalmente mi stupisco parecchio, insomma, che certe persone possono dire certe cose, però siamo in un paese libero democratico, voglio dire, ognuno dice quello che vuole. Però tornando al discorso che dicevo prima, io non mi stupisco che Berlusconi e Fini abbiano litigato, anzi io mi stupivo del tentativo di unione che hanno fatto un anno fa, e sempre perché sono stato un militante anche abbastanza, diciamo così, per anni, perché per quasi 20 anni ho militato nel vecchio MSI e poi nell'Alleanza Nazionale, ma io non mi stupisco, anzi mi stupivo che si sono messi insieme. Mia nonna diceva che due galli nello stesso pollaio non fanno mai giorno, e Berlusconi e Fini sono due galli, con pregio e difetti, io non voglio entrare. Ho capito Pietro, però il suo pensiero è chiarissimo, la ringrazio. Claudio da Roma, buonasera. Buonasera, posso dire una cosa prima di dire il motivo per cui ho telefonato? Prego, ho dica. L'onorevole Lucio Barani, è vero si chiama? Barani. Sì, è vero. Allora, io gli do pienamente ragione. Gli do pienamente ragione. Addirittura. E non riesco a capire, te lese. Scusi Claudio, però lei che ne sa delle vicende personali di Chiara Moroni, per dare ragione a Barani? No, lui non parlava delle vicende personali. Come no? Ben altre cose, che la donna influiscono, gli uomini e le donne influiscono nel rapporto. Basta, tutto questo. Poi Telese fa finta di non capire o meno, una persona intelligente come lui. Comunque non voglio parlare di questo, guardi. Voglio parlare della faccenda del Presidente della Camera dei Deputati. Io ho seguito questa faccenda dal primo giorno, ho letto il giornale, lo seguivo perché volevo capire. E non entro nei particolari della faccenda, voglio essere un po' più generico, ecco, così come appunto stavo generico nel dire della faccenda precedente. Perché appunto non vorrei parlare della valutazione che hanno dato nel 2000 di 450 milioni. Non le stiamo chiedendo questo, Claudio, meno male che non entra nel merito. Allora, con la sua valutazione politica, qual è dal punto di vista politico? La politica è questa, che ben dopo 8 anni un buon padre di famiglia, prima di vendere, avrebbe detto, beh, ora la valutiamo, anche perché tra il 2001 e il 2002 le valutazioni di mercati sono salite con la bolla, certo, che noi conosciamo, certo, tutti quanti. Certo. Quindi un buon padre di famiglia avrebbe detto, rifacciamo la valutazione. Vabbè, però lei sta entrando nel merito di questa vicenda. No, appunto, non voglio entrare nel merito. Voglio dire un'altra cosa. Voglio dire che il Presidente della Camera, l'11 luglio del 2008 era Presidente della Camera, ha fatto vendere, dietro esistenza di un pseudoparente, perché ancora sì, non lo diventava, ad una società offshore dei paradisi fiscali una casa. Cioè, un presidente della Camera della terza carica dello Stato, ma come ha potuto? Io sono per questo, è una questione, no, di... Però mi scusi Claudio, c'era un lascito ad un partito, dunque Fini non è che agiva in quanto presidente della Camera, Fini agiva in quanto presidente di un partito, attenzione. No, beh, attenzione, lui aveva come buon padre di famiglia tutto. Vabbè, questo è un altro discorso, quello che avrebbe dovuto fare e che non avrebbe dovuto fare. Questo, però aveva ora la carica dello... Cioè, lui non doveva entrare più nel merito, non doveva vendere più nulla. Lei dice da presidente della Camera non doveva più occuparsi di questa vicenda. Però insomma, questo... Ora vendete ai suoi colleghi di AN e pensateci voi, perché io sono il presidente. Come ha continuato a fare dopo? Ho capito. Giustamente, lui ha detto... Io non entro nel... Grazie, ho capito. Lei dice da presidente della Camera non doveva occuparsi della conclusione della vendita di questo lascito. 800 24 00 24, fra pochissimo i titoli dei telegiornali. Siamo qui alle 20 in punto, la 7. Sulla casa di Monte Carlo partita la rogatoria dei magistrati che vogliono accertare la correttezza del prezzo pagato. Intanto è battaglia politica con il PDL che vuole le dimissioni di Gianfranco Fini. Il presidente del Consiglio al contrattacco, Berlusconi, invita i militanti a mobilitarsi contro disfattismi e personalismi. Noi facciamo, dice, gli altri chiacchierano sullo sfondo l'ombra di elezioni anticipate. Fini deve dimettersi per la vicenda della casa di Monte Carlo, scrive Feltri sul giornale. Assolutamente no, replica Rossi, direttore di Fare Futuro Web, ha chiarito ogni particolare. Dall'attico di De Mita ad Affittopoli all'appartamento davanti al Colosseo del ministro Scajola, le case abitate dai potenti sono spesso state al centro di polemiche nella storia politica italiana. Tentato il furto delle reliquie di Padre Pio nel cimitero di San Giovanni Rotondo, i ladri fermati dal vetro antisfondamento che protegge i resti del santo, ora trasferiti nel convento dei Cappuccini. I No Global distruggono un campo di mais transgenico in Friuli e scoppia la polemica politica. Il ministro Galan parla di azione squadrista. Il governatore del Veneto Zaia difende l'assalto, ristabilita la legalità. Gli incendi in Russia minacciano un sito nucleare e continuano a soffocare Mosca. Nella capitale la mortalità è raddoppiata per i fumi nocivi e per un'ondata di caldo definita la peggiore degli ultimi 1000 anni. Tra 24 ore la prima della nuova nazionale a Londra, il test d'agosto contro la Costa d'Avorio per ripartire dopo il disastroso mondiale. Prandelli sceglie il tridente, Cassano numero 10, Balotelli e Amauri. TG5. Appello di Berlusconi al Popolo della Libertà, mobilitazione contro i disfattismi e i personalismi di chi antepone i propri interessi al bene del paese. Altri fanno chiacchiere, noi i risultati. È sempre polemica sulla casa di Monte Carlo ereditata da Enne. Le spiegazioni di Fini non convincono il PDL, duro botta e risposta. In Russia l'estate più torrida degli ultimi 1000 anni, emergenza incendi, mortalità in aumento, timore per i siti nucleari. A San Giovanni Rotondo i ladri tentano di sfondare la teca che racchiude alcune reliquie di San Pio, ma il vetro resiste. Avrebbe dei complici il bancario siciliano fuggito nel febbraio scorso con 6 milioni, indagate 5 persone per riciclaggio. Offensiva del fisco a caccia di evasori, controlli nei porti e negli stabilimenti balneari, 007 tra sdraio e lettini. La notte delle stelle cadenti scivola al 12 agosto, ma già da stasera sarà possibile ammirarle. I consigli, luoghi bui, alti e guardare a nord-est. Bene, non ci sono ancora novità sulle condizioni di salute di Francesco Cossiga, dunque, come avete sentito dai titoli dei telegiornali, il presidente è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale romano dopo che le sue condizioni di salute e problemi respiratori si sono aggravate nel corso della giornata. Maria da Barletta, buonasera. Buonasera, ecco, mi dispiace per Cossiga, spero che migliori, insomma. Senta, io ho sentito il parlamentare socialista, di cui già ho dimenticato il nome. Lucio Barani. Barani, ecco, è la prima volta che lo sento, non so, forse sarà l'ultima probabilmente. Vabbè, non, ecco, non è detto, non è detta l'ultima parola. Sentire. Non mi sembra, cioè, nel senso che poi interverrà un'altra volta, però io l'ho sentito veramente, cioè, non ha fatto onore ai socialisti, cioè i vecchi socialisti tipo Pertini, ma anche Craxi, cioè, si sono rivoltati nella tomba, cioè un livello veramente, cioè, ha infangato solo la gente, ha infangato Fini e più di tutti la signora Moroni, che ha fatto politica in Parlamento e poi no, è stata nominata come lui è stato nominato, ma ha dimenticato una cosa, che prima ancora di essere nominati da Berlusconi, da quelli del PD eccetera, sono gli italiani che li hanno nominati, anche se per terza, quarta persona, quindi dimenticano questo, e io sono dalla parte della signora Moroni, la difendo, e le campagne mediatiche che stanno stufando, cioè, se ha qualcosa da dire la dicesse, non questo buttare la pietra e nascondere la mano, cioè, sì, non ha fatto onore ai socialisti di cui si vantava di essere, insomma, chiedo scusa, ma no, Maria, infatti guardi, per me tutte le critiche vanno bene, però uno non può dire Chiara Moroni è stata influenzata solo da questioni amorose, assolutamente, e poi assolutamente. Io so chi è, però non ve lo dico. No, questa è solo dell'azione, se ha da dire qualcosa la dice, altrimenti ci vuole buon gusto, e visto che alla Camera deve averne più di noi di buon gusto. La ringrazio, buona serata. Paolo da Modena, buonasera Paolo. Luciani, un intervento sulla questione Fini. Io personalmente sono rimasto abbastanza sorpreso, più che del tema Monte Carlo, sul quale chiaramente indagherà la magistratura, staremo a vedere, chiaramente non si tratta, d'accordissimo con lei, di argomentazioni così, come dire, particolarmente concrete, quelle che oggi abbiamo letto sui giornali. Io sono rimasto però più sorpreso di un'altra cosa che vorrei porre alla vostra attenzione, tipo i presunti interessamenti in favore del cognato di Fini verso la RAI. Leggendo oggi il Corriere della Sera ho capito, sì, che il fratello della Tugliani sarebbe stato accolto ai piani alti della RAI a proporre non meglio precisate offerte, non ho ben capito di quale tipo di panorama formativo, culturale, non mi interessa nemmeno più di tanto. Ecco, le dico questo perché oggi sono stato in macchina parecchio tempo e ho ascoltato... Sì, però Paolo, insomma, ma dai, un politico che raccomanda qualcuno alla RAI è una novità? Non è una novità, però vede, detto da un campione della moralità, sì, questo è vero, come Fini, questo mi ha lasciato un po' perplesso, anche perché oggi in macchina le 18 sono stato parecchio tempo e Radio Radicale, mi permetta di dirlo, ha, sì, messo un discorso di Fini al 6 di luglio in tenuto presso l'Associazione degli Industriali di Ravenna, presso il quale era stato intervenuto, sì, in occasione dell'assemblea. In quel discorso sono rimasto veramente a bocca aperta, perché sì. Paolo, avvicini un attimo la bocca al microfono perché non sentiamo nulla. Sì, scusi. Di esempi di moralità, dicendo che il paese aveva bisogno di esempi di moralità, di esempi di legalità, perché l'esempio è una cosa importante. Beh, d'accordissimo con tutto questo, però ci picchia. Ma che esempio è raccomandare? Paolo, lei non so cosa succede al suo microfono. 30 secondi di pubblicità, torniamo subito. Siamo qui alle 28, Giuseppe da Milano, buonasera. Buonasera a lei, Cruciani. Dica. Senta, io devo dire che veramente sono rimasto basito dall'intervento memorabile dell'onorevole Barani. Secondo memorabile non c'è dubbio. Poi chiaramente lei lo deve registrare, lo deve mandare in onda almeno una settimana nel suo teatrino, perché insomma alcuni spunti sono veramente eccellenti. Detto questo, insomma, io rimango... Soprattutto Craxi che teneva il guinzaglio alle donne, mentre Fini si fa condizionare da donne, quello è, sì, spettacolare. Sì, devo dire che quello è veramente stato un eccesso, una vetta, una camera aggiunta in maniera assolutamente non ripetibile, ecco. Quello che dico è che però ci sono una serie di spunti che dall'intervento di Barani vengono fuori. Allora, il primo è questo maschilismo imperante, che a me sembra sempre comunque strisciare in tutte queste dichiarazioni. O le donne traviano o sono traviate, no? Questo proprio è un'offesa alla persona, alla donna, ma per cui ciascuno è mosso da altri, cioè non c'è una libertà di pensiero in tutto ciò. E spesso nei discorsi che i nostri politici fanno sembra di no intravedere questi sottintesi che insomma fanno veramente poco onore a chi li esprime, a mio modo di vedere. Sì, nel discorso di Barani c'era un'idea della donna proprio non propriamente nobile, ecco. No, ma poi insomma A fianco a questo poi ovviamente il pensiero poi prontamente smentito, secondo cui per l'appunto da una parte spero che per lei sia un compagno, perché mai sia pensare che si possa in qualche modo, no, avere altre visioni della morale sessuale. Vabbè, ma questi sono tutti poi argomenti che ciascuna persona nel suo foro interno dovrebbe gestire senza... lei sta facendo riferimento alla frase di Barani in cui ha detto meno male che è un compagno, spero che sia un compagno, spero che sia un compagno, non una compagna. Veramente questi ragionamenti fanno veramente cadere. Noi socialisti di solito ci piace di più essere eterosessuali, una cosa del genere ha detto. Sì, che poi non è vero, perché storicamente i socialisti anzi sono stati sempre molto aperti da questo punto di vista. Ma vabbè, questo io non lo so. No, a livello anche di proposte legislative, eccetera, eccetera. Non c'è dubbio, ma poi in via più generale devo dire che questi discorsi a me vengono in mente quelli che avevano fatto qualche tempo fa l'onorevole Straquadagno da lei, l'altro onorevole che aveva le segretarie mogli nella sua segreteria di partito, la moglie e la nipote se non sbaglio, esatto, ecco, tutti questi episodi mi lasciano proprio basito. E allora dico, ma la crisi di questi rappresentanti è la crisi anche nostra, che siamo i rappresentati? Cioè, questo è un tema su cui forse... Insomma, questo è un argomento molto dibattuto nel corso forse degli ultimi 20-30 anni. Insomma, non c'è dubbio che poi la politica sia anche lo specchio della società civile, ma il discorso andrebbe troppo lontano e andiamo a recuperare la telefonata di prima. Paolo da Modena. Concluda, Paolo. Niente, scusate voi. Ma quindi il tema che volevo sottoporvi era un pochino questo, cioè da un lato una indagine della magistratura, d'accordo, probabilmente per un'ingenuità, forse per qualcosa di peggio, dall'altra parte mi sembra qualcosa di un pochino peggiore da un punto di vista etico, perché comunque l'indirizzare ai piani dove si decide della RAI il cognato non mi sembra un comportamento da un punto di vista dell'esempio, della cultura, dell'etica e dei valori adeguato e che si possa, confare a quella che fino ad oggi perlomeno è stata la martellante propaganda del Presidente della Camera e dei suoi seguaci. Ecco, e guardi, questo lo voglio dire con grande dispiacere, perché io sono un grande deluso di questa rottura nel governo, perché credo che se non riusciremo questa volta a fare le riforme, a fare quello che serve ai cittadini, con quello strapotere di voti che avevano, ho paura che non ci riusciremo mai più. Adesso mi lascio una vena di pessimismo finale nel mio intervento, però non lo voglio dire non voglio associarmi al giornale, a queste cose, però ci sono stato male, perché se l'alternativa di un fantomatico terzo polo deve nascere da lì, allora voglio dire, nasce veramente male, ecco. Bene, grazie Paolo, andiamo ad Alessandria da Fabio, buonasera, sempre 800 24 00 24, fra poco buonasera. Ci collegheremo con un altro rappresentante della Lega dopo il sindaco di Verona, il quale sostiene che nella nazionale italiana gli oriundi Nisba non ci vogliono. Fabio, dica. Sì, buonasera. Ma io volevo riallacciarmi alla Ferfini semplicemente per sottolineare come in alcuni passaggi si è fatto un raffronto indicando un maggior disvalore in casi che la cronaca ha trattato nei mesi scorsi, quali ad esempio quello dell'onorevole Scajola. Io non sono assolutamente d'accordo su questo. Intanto si perde un punto di vista iniziale. La persona che dà un lascito ad un partito fa un atto di grande nobiltà. Dal punto di vista etico, colui che sceglie invece di lasciare le sue sostanze nel momento in cui viene meno, invece di lasciarle a dei parenti anche lontani, no, decide di lasciarle ad un partito, compie un atto di grande volontà morale. E allora? Ora, che alla fine questo fatto sia tradotto nella pratica in una vicenda in cui ancora una volta i conti delle case dei politici non tornano con quelle di noi cittadini, perché se la casa è con vista Colosseo non tornava come prezzo, io invito chiunque ad andare a vedere su Monte Carlo i prezzi delle abitazioni, in quella zona lì che è la zona più bella di Monte Carlo, che è la zona delle ambasciate e quant'ha, secondo me non bastano oggi 3 milioni di euro e in questo momento siamo in una fase calante del mercato immobiliare. Quindi che una società offshore compia tutte queste operazioni, io credo che il Presidente della Camera non possa fare diciamo, limitarsi a quello che ha fatto nel dare spiegazioni. È una questione etica e morale molto grave. E lei ci vede delle similitudini con la vicenda di Scajola? No, però dire che la vicenda di Scajola è più grave e questa qua meno grave indica fare una valutazione, ma quando si tratta di morale non bisogna guardare gli articoli del codice, i vari titoli. No, ma io sono d'accordo con lei, fare la classifica, quello è più grave, quello è meno grave, in questo caso non ha senso. Grazie Fabio. Michele da Caserta, poi il traffico. Michele, prego. Buonasera, buonasera a tutti. Volevo intervenire sempre sul caso Barani, ma solo come memoria, no? Io ho 40 anni, ho una discreta cultura storica e volevo ricordare a tutti che i socialisti significa Nenni, Saragat, Pertini, per chi magari ha l'età mia. Allora? Allora, un Pertini io non me lo vedo che possa avere nulla in comune con Barani, quindi fortunatamente l'idea socialista è rappresentata anche da altri. E perché lo dico? A prescindere da quelle battute grevi sulle donne, su queste cose qui che già ha detto molto bene un ascoltatore prima, il problema che pongo anche a lei è il dissenso. Cioè, chi dissente è un pazzo oppure un innamorato? Confrontiamoci sui fatti, sugli argomenti, per piacere. No, ma anche io sono d'accordo con lei, Michele. Io volevo seguire fino in fondo il ragionamento di Barani, non perché lo condividessi, naturalmente, ma anche se la Moroni fosse stata influenzata da qualcosa che riguarda la sua vita privata, chi se ne frega, quello che contano sono le parole pubbliche, non certi comportamenti privati in questo caso. Però a quel punto, se uno lancia il sasso, poi deve anche, no? Deve andare fino in fondo, non puoi dire... l'unica cosa che conta sono le questioni sentimentali e poi non spiegarle, non chiarire, no? Ma non, mi scusi, ma una cosa importante che volevo ricordare a me stesso prima che agli altri è che solo nell'Unione Sovietica chi dissentiva veniva considerato pazzo e magari chiuso in qualche gulag. Allora bisogna stare attenti a considerare chi dissente un pazzo o peggio ancora un innamorato pazzo o uno pronto che so a essere... Vabbè, alla pazzia Barani non è arrivato. No, alla pazzia no, ma all'innamorato, alla innamorata sì. Sì, che all'innamorata, dunque, lei dice travolta dall'innamoramento, squassata dall'innamoramento. E soprattutto non è stata grata a quel capo che a 26 anni l'ha fatta onorevole. È veramente brutta questa cosa. Io contesto la Moroni, non sono d'accordo con la Moroni, milito in un altro partito, certo, ma certo. Il problema è confrontiamoci sugli argomenti della Moroni. No, ma sono d'accordo con lei, sono d'accordo con lei, Michele. Eccoci qui, Davide Cavallotto, Lega Nord, buonasera. Buonasera. Dove si trova? Io adesso mi trovo a Torino. A Torino. Stavo per uscire con i bimbi per andare a mangiarci un gelato qui nei parchi vicino a Torino. Senta Cavallotto, ma lei è della Lega di quale regione? Piemonte? Io sì, Piemonte, sono stato eletto nella circoscrizione Torino-Piemonte 1 in città di Torino, vivo proprio a Torino. E lei non va in vacanza? Vado in vacanza fra una settimana, faccio una settimana di vacanza. Dove va? Faccio una crociera nell'Adriatico, la prima volta che la faccio volevo portare i bambini per farli divertire un po', e allora facciamo questa avventura qui. Deputati in crociera, chissà quanti sono, magari ci informeremo nei prossimi giorni, qualche collega con lei? No, per carità. No, vado con la famiglia, vado con moglie e appunto i due bimbi. Senta Cavallotto, ma che le è venuto in mente di fare questa uscita sugli oriundi? Perché? Me lo spieghi. Ma guardi, la domanda che mi sono fatto è questa: se la nazionale brasiliana avesse chiamato Amauri chi avrebbe scelto? E allora mi sono fatto questa domanda, visto che sono un rappresentante del movimento giovanile della Lega Nord in Piemonte, mi sono fatto una domanda che si saranno fatti moltissimi giovani ragazzi che magari giocano a calcio e che vorrebbero, chissà, un domani sognano di diventare parte della squadra nazionale di calcio. E vedersi passare davanti ad una persona che ha già un'età e soprattutto è, come avevo messo anche nel mio comunicato, uno scarto, ma dal punto di vista calcistico ovviamente. Però mi scusi, lei non può fare un discorso solamente calcistico, lei non ha detto solamente Amauri non deve essere convocato, perché altrimenti sarebbe un discorso, diciamo, tecnico. Lei ha detto no agli oriundi. Esattamente. Ho capito, ma perché no agli oriundi? Se hanno il passaporto italiano, perché non possono essere convocati? Questa è una discriminazione. Ma no, non è una discriminazione, perché infatti il punto è proprio questo. Amauri perché ha scelto la nazionale italiana? Ha scelto perché è stato scaricato da quella brasiliana. Vabbè, ma lasciamo perdere, questo è un discorso che riguarda Amauri, è un discorso che riguarda un aspetto tecnico di cui si occupa l'allenatore. Lei ha fatto un altro discorso. Dobbiamo dire di no agli oriundi in generale, perché? Perché ritengo che dobbiamo dare più spazio ai nostri giovani, visto che li quali ma sono nostri tempo. Sono ma nostri, Cavallotto, sono nel passaporto italiano, perché Amauri ha preso il passaporto perché si è sposato con una d'accordo, ma è comunque cittadino italiano ormai, per cui ha gli stessi diritti di qualsiasi altro cittadino italiano avendo il passaporto italiano, o no? Chiaro, ma può avere la possibilità di scegliere. In questo caso qua, ripeto, se il Brasile l'avesse chiamato, non sarebbe mai venuto in nazionale con ma questo noi. È un altro discorso. Ma no, il discorso è collegato, è per questo che dico che non dovremmo andare a prendere una seconda scelta di una nazionale che ha scaricato un giocatore, e di lo prendiamo noi. Secondo ma me, questa, ripeto, la seconda scelta, la prima scelta è un discorso tecnico. Se lei mi dice gli oriundi no, è un altro tipo di discorso. Ma perché dal momento che un oriundo se Messi fosse oriundo, non verrebbe mai a giocare nell'Italia, perché gioca nella sua prima nazionale, che è l'Argentina. Beh, scusi, Camoranesi okay. Non mi pare che sia nella stessa situazione, sia stato nella stessa situazione di Amauri. Camoranesi è stato scaricato dall'Argentina e guarda caso poi è venuto a giocare in Italia. Ho capito, con e buoni risultati pure... però, insomma, con risultati non da poco. Ma secondo me farà molti risultati migliori un Balotelli, che a tutti gli effetti è italiano, perché se non sbaglio è nato a Palermo e vive a Brescia, farà un risultato sicuramente migliore, nonostante però... molti mi abbiano creato polemiche dicendo che io non volevo Balotelli neanche in nazionale. No, però Cavallotto, io non sto parlando dell'aspetto tecnico, quello lasciamolo perdere. Io sto ne faccio una questione di principio. Se uno ha il passaporto italiano, come Amauri, se uno ha il passaporto italiano, il doppio passaporto, quello che ha anche il passaporto italiano, ha il diritto di essere convocato. Lei dice no, perché hanno il doppio passaporto e dunque non sono solo italiani, sono al 50% italiani. Sì, io la vedo così, è come se fosse, infatti ripeto, e il punto è proprio questo. Se venisse chiamato dalla sua altra nazionale, cioè dall'altro passaporto, lui cosa farebbe? Non lo so, quello lo lasciamo decidere a lui. Cioè, mi spieghi una cosa, Cavallotto, secondo lei non dovrebbe essere consentito? Secondo me no, bisognerebbe tutelare prima di tutto i giovani. E dunque cosa bisognerebbe fare? Quelli che hanno doppio passaporto non devono essere convocati? Non devono essere convocati, bisogna convocare prima di tutto i giovani talenti italiani, e ne abbiamo anche tanti. L'esempio di cosa abbiamo sfornato nel calcio l'abbiamo a Roma come Totti. D'accordo, allora, fino a quando voglio dire, secondo lei chi ha solamente il fatto di avere un doppio passaporto è un limite, non vanno convocati in nazionale quelli che hanno un doppio passaporto? Io credo che nella nazionale italiana ci debbano essere prevalentemente gli italiani, coloro che hanno un passaporto solo, che non che possono scegliere se essere quel giorno mi conviene andare nella nazionale italiana piuttosto che brasiliana. Lei lo sa bene che una volta che scegli poi alla fine non si può tornare indietro. In che senso? Come nazionale? Sì, non si può tornare indietro, no? Adesso Amauri non può tornare indietro, dunque fa una scelta che è definitiva. Chiaro, no, sì, certo, però infatti la domanda che io mi sono posta è stata quella fin dall'inizio, che infatti provocatoriamente ho detto, ma se avesse la nazionale brasiliana avesse chiamato Amauri, lui si sarebbe sentito così italiano? No, secondo me avrebbe scelto la nazionale brasiliana, perciò domanda, perché andare a cercare questi giocatori, che poi tra l'altro è anche un giocatore di 30 anni, avrà fatto anche... Vabbè, quello è un altro discorso che riguarda l'allenatore. Ma io credo che sia correlato. Cioè, voglio dire, se uno avesse il doppio passaporto a 20 anni, allora andrebbe bene? Ma no, ma non è questo il punto. È che secondo me, come ripeto, ci sono tantissimi giocatori che hanno le caratteristiche per fare bene in nazionale, che tipo, ripeto, Balotelli potrebbe essere una persona che potrebbe dare... Ho capito, ma se l'allenatore pensa che gli possa... Scusi un attimo, Cavallotto. Se l'allenatore pensa che gli possa servire uno che ha il passaporto italiano con le caratteristiche di Amauri, lo convocasse. Perché non deve convocarlo, secondo il suo ragionamento? Semplicemente perché ha due passaporti? Mi sembra una follia. Ma secondo me perché a tutti gli effetti, cioè lui è nato in Brasile, non è a tutti gli effetti, non è nato in Italia. Possiamo secondo me cercare tantissimi altri giocatori che siano nati in Italia e che possano rappresentare al meglio questa nazione. Va bene. Sento un'ultima cosa, Cavallotto, che riguarda sempre la questione della nazionale. Adesso nel discorso mi sono anche dimenticato. Vabbè, capita alle 20:24 dopo tante ore di diretta. Dopo due ore e mezza di diretta può capitare, e vabbè, se mi ricordo poi la richiamerò. Che devo fare? In questo momento non mi viene in mente. Mi stavo appuntando una cosa che poi adesso non... Sulla nazionale. Mi aiuti, non lo so, no, sì, sulla nazionale, il calcio, Amauri... Potrebbe essere... Che potrebbe essere, mi dica lei. conoscendola potrebbe essere una domanda provocatoria, che ne so, mi potrebbe parlare della Nazionale Padana. No, beh, la Nazionale Padana, lei mi conosce bene, non però. Io l'ammiro. Lei è nato il 15 settembre, esatto, il giorno della dichiarazione di indipendenza della Padania. Non mi dica che lei è uno della corrente indipendentista. No, io sono separatista. Io sono federalista. Lei è federalista. Infatti io spero che la nazionale diventi un po' come la nazionale spagnola, con all'interno dei giocatori che per lo più erano catalani, si sentono catalani prima di spagnoli. Beh, non lo so. Come se Totti sì. Si sente. Ma sì, questo è. Però cantano l'inno, sì, si sentono catalani sicuramente, come lei si sente piemontese e poi magari anche, esatto, italiano, però poi cantano l'inno spagnolo a squarciagola. Non tutti lo cantano. Beh, Pujol, questi qua lo cantano, come non lo cantano. Ma poi, e si è visto anche in Catalogna, poco prima della partita, della finale, quanti sono scesi in piazza per sostenere l'autonomia della Catalogna. Perciò, ma è bello, non è una cosa negativa, come Totti che è romano prima di italiano, è una cosa veramente bella, perché il futuro dell'Italia passa da questo, passa da un'Italia, per diventare un'Italia federale bisogna saper garantire anche le differenze e valutarle queste differenze. Io adesso intanto mi stavo ricordando quello che. Ah no, perché Tosi prima, in apertura di trasmissione, il sindaco di Verona ci ha detto: bah, insomma, queste sono sciocchezze. Chi è Cavalotto la pensa diversamente da me. Io penso che Mauri abbia tutto il diritto di giocare. Non solo, ha detto una cosa bellissima, Mauri. Io mi sento. Che cosa che ha detto Mauri? Non mi ricordo. Mi sento molto italiano. Ha detto, insomma, alle sue frasi, Cavalotto ha risposto in maniera molto positiva a Mauri. Non è entrato in polemica forte, insomma, lei lo vuole cacciare dalla nazionale. Ma infatti anche Tosi, adesso mi dice lei che ha detto questo, non l'ho sentito, ma giustamente sono problemi relativi, perché non stiamo parlando. Ecco, no, ecco, la domanda era questa, mi è venuta in mente, grazie, mi ha aiutato. Ce l'abbiamo fatta. Allora, Cavalotto, io non la conosco, eccetera, eccetera, ma non ho pregiudizi, come lei sa, nei confronti di nessuno. Ma con tutte le cose che ci sono da fare, con tutte le dichiarazioni, il giorno, che giorno è oggi? Il 9 di agosto, oggi perché è 9. Lei è stato bravo, per carità, perché poi si è discusso di questa cosa anche oggi, la conferenza stampa, dunque lei ha fatto il suo mestiere, che è anche quello di creare discussioni. Ma perché gli oriundi? Che gliene frega a lei degli oriundi? Ma no, ma gliel'ho detto in apertura, perché io, essendo 34enne e responsabile rappresentante del movimento giovanile della Lega Nord. Questi movimenti giovani della Lega a 34 anni, poi ne parliamo una volta, non è un po'. Va bene, ci risentiamo. 34 anni, altro che movimento giovanile. No, ma infatti stiamo attendendo di fare i congressi. Noi ecco, appunto. Mettete un limite, movimento giovanile fino a 25, 26, non 34. Il limite fino a 30 con incarichi federali a 32 anni. Infatti adesso facciamo i congressi, che di solito li facciamo insieme. Ma l'inno della Padania, qual è l'inno della Padania, Cavalotto? E il va pensiero. Ah, quando ci sono le partite, il va pensiero? Sì, il va pensiero. Lei lo sa cantare, il va pensiero? Sì. Io lo so, sì, ma è meglio che non lo cantiamo, perché faccio. Vada. Attaccate va pensiero sull'alido. No, ma non, neanche se mi si mette sotto tortura, perché. Come no? Non è, ma qui abbiamo fatto una gara, qui, come lei sa, se ci segue, abbiamo fatto una gara tra deputati, eccetera, sono stati bravissimi. A questo non lo sapevo. Vada col va pensiero. Due strofe, due parole. Le prime. Ma non gliela faccio cantata, No, cantata. Va pensiero sulla. Come non cantata? No, come non cantata? No, vabbè, va ci proviamo. Va pensiero sulla Lidorate, va ti posa sui clivi e sui colli. Oh, violenza, non te pide molli, laure dolce. E poi vabbè, continuo, dai, non faccio già appena così, dai. Bravissimo, grazie. Addirittura l'applauso. Buone vacanze, dobbiamo chiudere. Tante cose. Siamo oltre già, dobbiamo chiudere, grazie. A domani, 18, la Zanzara Estate. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non vi preoccupare. Radio 24, la passione si sente.